No, tra l'altro è già Un andato via quando è successo. successo hai riassunto, un riassunto difficile e Successo. sofferente. No, va bene, va bene, Fuggiremo malamente. Eh sì. va bene. Ma cosa vuoi fuggire? Dai, hanno finito le munizioni, continuiamo. Oppure, Molto allora, bene, bisognerebbe molto ricoprire. bene, molto bene. Cosa? Allora, benvenuti, bentornati. La maledizione di Katta, episodio 65. Continua la nostra maledizione, Katta. Da due pollici. Oggi praticamente c'è un paladino e quattro malvagi. Il master è Beh. considerato malvagio. Assolutamente sì. No, È ma il sarebbe no, malvagio, non è il più malvagio. malvagio, magari no, ma è diciamo crudele sicuramente. Nuovo allineamento. Crudele. Sadico, sadico. Master crudele, gigante crudele. È caotico malvagio, no, io sono crudele malvagio. Allora, va bene. Siamo qui, Tycoons and Dragons, guardate oggi la maglia anch'io e RIP GDR. Siamo tornati. Come vi ho detto, episodio 65 della maledizione di Katta, la nostra campagna ormai lo sapete di Dungeons and Dragons. Oggi giocheremo a formazione ridotta, quindi insieme a me è Andrea Giacomo Vecchi che interpreto Vardistrand, il paladino, l'ultimo dei paladini. Abbiamo il nostro Per ora Master con quell'allineamento, Crudele. ma lo porteremo dall'altra parte. Beh, ma può essere, oppure la morte potrebbe essere un'ottima soluzione. Comunque, Facile, Master troppo Enrico facile. Cattabriga, Giulio Bosi, Marco Bosi e Stefano Gamberoni sono gli altri tre che fanno parte del nostro cast oggi. Salutiamo a casa Edoardo Saladini e Francesco Arcidiacono, che non saranno dei nostri. E Gli auguri a Rossana. facciamo gli auguri a Rossana, che è la sorella Inaspettatissimi auguri. di Arci, esatto, non si aspettava Arci, assolutamente, sorpresa per lui, quindi congratulazioni. E quindi niente, con questi presupposti, possiamo dare inizio al nostro episodio. No, Momento che un tutti momento, aspettavamo. c'è La la sigla sigla. da lanciare e c'è anche da ricordarvi di continuarci a seguire sui nostri canali social, Tycoons and Dragons RPGDR. Poi alla sigla, via riassunto. Lo lasciamo al capo dei malvagi, Giulio Bosi. Ah, ok, grazie. Allora, nascosto episodio è continuata la nostra esplorazione del Tempio d'Ambra. E soprattutto, cosa importante, prima di tutto, siamo riusciti a sconfiggere lo Slud che ci aveva teso la trappola. E non era assolutamente Non è un... scontato. No, Dopodiché assolutamente abbiamo fatto un gioco che tocca tutti i sarcofagi che trovi, non e a cui il druido ha partecipato in una variante Ma quindi che è che Arci accetta anche tutti i non ha qua fatti. per non rilasciare dichiarazioni sulla Esatto. sugli eventi. Secondo me ha detto cazzo, altre palle di fuoco, no, è meglio di no. E quindi il druido, nel pieno suo stile, ha iniziato a toccare tutti i sarcofagi e a Il cercare suo di stile. prendere tutti i poteri che poteva accumulare, finché non ha preso uno del ghiaccio e poi voleva prenderne uno del fuoco, nonostante abbia preso quello dei mastini infernali, perché adesso, a causa del suo patto con la potenza oscura che gli ha dato, diciamo, il potere del ghiaccio, lui è terrorizzato dal fuoco. Beh, non dai Quindi sarà sarcofagi, divertente. però. Quindi sarà divertente vedere, ai prossimi fuochi da campo, appena rientreremo nella civiltà, cosa succederà. O più banalmente, adesso che vi stanno lanciando Forse è palle di questo che ha fuoco fatto addosso. nascere. È Poi forse questo che ha fatto invece. nascere Rossana proprio oggi. E anche Race ha accettato un potere, ma non è cambiato molto da prima. Esatto. E anche io, Athanas, ho Ma non è cambiato. accettato. Ma non è cambiato assolutamente. Ma com'è che sembra tipo le condizioni della Apple o delle applicazioni che scarichi, no? Tipo Esatto. accetti, E scorri accetto che se ne e accetti. frega. Esatto, non sai che cazzo hai accettato. Sì, lo voglio, accetto, accetto. Ah, hai venduto i tuoi dati. Volevo dire i doni. E niente, dopo aver accettato questi doni e aver fatto un riposo breve, abbiamo continuato l'esplorazione e siamo arrivati in questa sala circa con una statua con la testa avvolta da un'oscurità sospetta. Ci siamo avvicinati e abbiamo iniziato a subire palle di fuoco, quindi ci siamo avvicinati ancora per attaccare la statua, ma da un altro punto, probabilmente in alto delle feritoie, sono arrivate altre palle di fuoco e quindi siamo mezzi morti in mezzo a palle di fuoco di nuovo. Il nostro riposo è stato assolutamente inutile. Esatto. Che bello, perché ora dobbiamo fare un altro riposo lungo. Ora sono qui. Cos'è? Ora sono qui. No, io non ho fatto nulla. Cosa stai facendo? Io niente, cosa sto facendo? Stai giocando? Dato fuoco. Sì. Ah, quindi sì. Puoi interagire perché ti sei iscritto. Come funziona? Che bello, sì. Scusate, bravo. Giuendo. Sì, esatto. Per la precisione, avete notato che le palle di fuoco dall'alto arrivavano proprio dal corridoio dove avevate sconfitto i teschi fiammeggianti, e dalle feritoie di questo corridoio avete visto che non avete sconfitto abbastanza questi teschi fiammeggianti. Sconfitto abbastanza questi teschi fiammeggianti. Sì, il fatto è che dopo un po' i teschi ritornano. Nessuno di noi ha fatto religione. Bannato, via. Bannato, l'avete bannato? Bannato. L'ho scommesso, non è finito. Più o meno. mi sembrava infinito. Ah, c'era una parte che a Catta piaceva che abbiamo tolto. Vabbè, è durata 40 minuti Catta. No, ormai era già arrivato. Mi sembrava finito. Lo rimettiamo, non è un problema. No. Vedi. Era carica però. Esatto. Era carica. Ed è molto appropriata perché appunto il titolo era Rain of Fury. Esatto, il testo è particolarmente adatto. Quindi, pioggia di palle di fuoco, e questo causa appunto il terrore negli occhi del povero Patk, perché ha appena preso il potere che dice sei terrorizzato dal fuoco, e quindi lo vedete fuggire tornando indietro a gambe levate. Nel momento in cui il fumo si dissipa e torna all'oscurità della stanza, vedete che anche Race non si vede più. Bene. Allora, io sono esposto ma non così esposto. Garrosh è finito, l'altro morto chi è? Giulio. Io e forse Marco riusciamo a salvarci. Oh, io credo di essere messo abbastanza. Faccio recap, 48, Giulio. Io 48, Varistran 29, Garrosh 109, Patk 80, non c'è, Sfortuna 31. Bene, okay. Ma benissimo. Benissimo, sì, noi siamo stati, diciamo, abbastanza massacrati. Mandiamo Patk avanti. Ah no, Patk non c'è. No, anche perché alla fine noi avevamo fatto poi un riposo breve, non un riposo lungo sostanzialmente. Io non breve. Sì. Quindi io sostanzialmente non ho cure. Non ho cure. Nel frattempo facciamo un riassunto di che poteri avete preso. Allora, Race abbiamo detto è sempre Race. Athanas ha preso la vestigia distruttore a 5 teste, e che gli ha donato la forza di un gigante del fuoco. Sì, grazie. Non dire tutti quelli di Arci, sennò finisce la sessione. No, infatti, solo i vostri, per ricordarveli. Sfortuna è ancora vergine. Io e Marco non l'abbiamo preso. Esatto. per motivi opposti, direi. Ha preso i due che sappiamo, che è molto divertente, soprattutto quando utilizzerà il secondo, ma non l'ho ancora fatto. Io me li sto segnando tutti, poi dopo decido. Ok. Garrosh ha preso quella del, di Yogg l'invincibile, quindi i suoi punti ferita sono aumentati di 30, per quello e il suo volto è ricoperto di uno spesso e fitto pelo nero e oleoso. E unto, esatto. Sottolineiamo unto. È importante. Ma quindi prende prova a prendermi in lotta, non ce la fa. Cosa hai detto, sfortuna? Prende poco meglio adesso. Quelle quali si può. Il pelo? Non saprei. Beh, sicuramente si sente il più l'odore, fa un odore parecchio fastidioso, il pelo bruciato. È importante. Bene. Bene, chi, la domanda era chi tocca adesso. Troppo difficile. Direi che la risposta è Garrosh. Bene. Fai un recap della situazione anche. Appunto, la situazione è stata... vi siete addentrati in questo salone dove vedete questa zona dove al piano di sopra c'era un c'è un soppalco praticamente che porta alla stanza che c'è sopra rispetto a questa. E no, voi riposavate sopra. Qua. L'ultimo riposo breve che avete fatto. Sì. Sopra. No, io intendevo la stanza dove abbiamo dormito. È sopra qua, è a sud. Sì. Questo invece siete dal lato opposto all'entrata del tempio. Quindi questo è un lato che non avete ancora esplorato, né sopra né sotto. A parte questa... avevamo visto qualcosa lì dentro però. Qui e c'era entrato Race, dove aveva visto degli spettri che uscivano, poi è scappato via e gli spettri non l'hanno inseguito, sono rimasti dentro la stanza. Dopodiché Race aveva usato la sua bacchetta e la bacchetta gli aveva mandato un segnale in questa direzione. Non mi ricordo se questa cosa l'ha condivisa o meno con voi, comunque adesso vedremo. Probabilmente. E questa parte appunto è parzialmente franata. Quindi vedete che il camminamento che c'è sopra questa zona è molto pericolante. Qui ci sono due statue raffiguranti i soliti maghi con delle bacchette dorate, dei bastoni dorati. Questa è una gigantesca statua dalla quale spuntano alcune, vi sparano alcune delle palle di fuoco. Da sopra. E dopo che Vardistran ha dissolto l'oscurità che avvolgeva la testa della statua, avete visto che all'interno c'è qualcuno che si muove, che vi sta attaccando. E la parte opposta avete visto che si è avvicinato, che invece qui è ancora più integra e la porta qui è ancora intonsa. E poi niente, la stanza continua. E dopo un po' chiaramente ritorna immersa nell'oscurità. Quindi, che cosa fate? Allora, toccava a me, io stavo picchiando la statua. Perché tu stavi picchiando la statua, esatto, e da sotto effettivamente non riesci a vederla, ma magari i tuoi amici sì. Però capisco. Se abusiamo di questa parola. Però adesso che hanno liberato dall'oscurità capisco comunque che arrivano da sopra. Palle di fuoco, giusto? Perché arrivano li hai visti arrivare dalla statua, in particolare da dentro l'oscurità. Quindi ho capito che sono che arrivano dalla testa, però mi chiedevo da lì dove sono, riesco a capire qualcosa di più o proprio boh? Ma perché da dove sei non si vede la faccia, diciamo, da sotto sotto. Okay. E i colpi che ho dato lo scorso turno non hanno fatto quasi nulla, mi rendo conto o... Ti rendi conto che sì, è una gigantesca statua di pietra e anche se magari qualche scheggia, qualche frammento di questa viene rimossa dai tuoi colpi, non è diciamo quella la minaccia. Altra cosa di cui ti puoi rendere conto, sì, dalla tua posizione è vero, non vedi meglio, il volto si vede, vedi che al posto degli occhi ci sono delle feritoie, ma non vedi dentro. Beh, chiaro, con quella prospettiva è chiaro. Hai detto quindi che esattamente sopra la statua c'è il camminamento, c'è un soppalco, o è la parte tratteggiata, quindi accanto? Appunto, vedi che le parti tratteggiate appunto sono dei camminamenti che stanno sopra, che portano alle stanze sopra queste. Sopra la statua non c'è un soppalco. Sopra la statua non c'è niente, la statua è alta quanto arriva in quanto i soppalchi, come altezza, okay. Anzi di più, quindi sopra è libero, sì. Quindi l'idea di fargli crollare in testa il soppalco non può... No, sopra c'è proprio il soffitto quello in alto. Non mi ricordo, Atanas, perché sei lì? Per picchiare la statua. Ma sei davanti, cioè perché eri in quella posizione? Mi ero avvicinato tutto. E poi l'idea è perché il mio movimento prima arrivavo fin qua. Ok. Oddio. L'idea era di spararli da lì, quindi. Proprio quando l'idea poi da qui era attaccare la statua. Ma però, voi dite che riusciamo ad andare avanti in questo combattimento? Il problema è che ci sparano anche da sopra, per cui no. No, io mi ritirerei. Cos'è tutta questa strategia? C'è un barbaro che sta decidendo. No, vabbè, adesso... Ah, io mi ritiro. Ne parlavo già l'altra volta, il fatto che sia diventato malvagio non vuol dire che non capisco più cazzo, ovviamente. Capisco anch'io che stare lì morirei, per cui non ha senso. Il punto è che io un'altra palla di fuoco la reggo, ma altre due no. Cioè, è che... Tornare indietro ha una sua logica fino a un certo punto, cioè rimaniamo là per sempre. No, è che cioè, in realtà non abbiamo bisogno di arci, cioè questa è la triste storia. Sì e no, riposiamo e esploriamo dall'altro lato. Aspetta, no, non possiamo correre dall'altro lato e basta, nel senso, tanto comunque dobbiamo passare da cosa ci sia. Tanto cosa facciamo? Stiamo indietro e aspettiamo la prossima... luna nuova. Torniamo indietro, riposiamo, ci rimettiamo in sesto e poi esploriamo ma dall'altro lato, anche perché semplicemente quindi tu dici torniamo su e facciamo torniamo giro dall'altra su. Parte continuiamo ad esplorare l'altra parte, anche perché qui siamo in mezzo, cioè perché a parte ci sono degli spettri che noi non sappiamo che ci sono, ma vabbè, nella stanza lì che poi ha visto... tu dici metti che dall'altra parte ci sono altri teschi che ci sparano le palle di fuoco, siamo in mezzo a una guerra qui, c'è qualcuno che dalla statua ci spara addosso, poi ci sono i teschi che ci sparano addosso, ok, che adesso non mi ricordo, forse ai teschi manca una palla di fuoco o due, però insomma comunque scusate dico io scusate andare su per la scala da qui direttamente senza far tanto il giro, cioè questa scala come posso indicare le cose su Roll20? Non so se vedi da qua in alto a sinistra se fai draw shape della statua o mano libera tipo così come paint funziona, dovrei averti dato anche i permessi da master, quindi potresti fare qualsiasi cosa da master, però a posto, hai permessi da master, togli i teschi. Esatto, no, perché non so come fa, vabbè, comunque quella sì, su cui hai fatto la croce, sì. No, io invece tornerei proprio indietro, andrei dal laboratorio chiedevo questa scala sta roba. Cosa state facendo? Chiedevo, Katta, quella scala lì. Sì, è quella che vedevamo da giù. Che vedevate da giù, e andare fin là vuol dire essere esposti per tutto questo percorso i colpi della statua e in parte anche dei teschi. Ok, sì, allora è quello che voglio dire. Cioè, io e Fortuna forse abbiamo un turno per salvarci. E voi dovete averne due. Per salvare come posso? Ah, quindi così? No, perché non dici? Boh, non capisco. Vabbè, lo imparerò ad usare. Io tornerei su, ma da dove siamo arrivati? Quindi dalla parte del laboratorio. Torniamo. Perché io faccio le righe ma spariscono? Vabbè, comunque io oppure no, cazzo! È che sono di un colore di merda che non si vede. Come faccio a cancellare e tornare indietro dalle mie azioni? Ho fatto delle... Adesso te le cancello io. Ecco chi è che faceva quella merda. qui l'hai vista, Katta? Sì, sì, l'ho vista. Sì, lo vediamo quello schifo. È un infatti, colore di merda che non vedevo. Ecco, infatti te le cancellavo. funziona control Z. Clicca sulla paletta del colore di fianco al tuo nome. Sì, sì, no, adesso l'ho cambiato. Sono tipo rosse. Sì, sì, io adesso sto facendo adesso dei pentacoli rossi. Vedi? Bello questo. Sì. E poi con canc o control Z tu fai indietro come... Okay. Non è vero, mi stai mentendo? Cosa hai fatto adesso? Ah, così. Credo di averli tolto. Vabbè, comunque. Ciao. Ah, Garrosh, pensavo fosse scritto. Va bene. Così mi emoziono. Cosa state facendo, ragazzi? Stiamo giocando, sì. Tutti su Roll 20, ma anche sotto. Va bene. Quindi Garrosh, fammi un perception. Ah, scusa, stavo giocando con adesso li cancellerò quelle righe, non capisco, ma le sto cancellando le righe che ho fatto io secondo te? Boh, quando le vedo le cancello subito, però sì, questa l'hai fatta e l'hai cancellata, credo. È che era un colore di merda, per cui era uguale al pavimento, non si vedevano, credo di averle cancellate. Sì. Questa rimane. Cos'è? Scusa, cosa devo fare per perception? Sì. Al ma quale credo o tiro? Tu abbia tanto dimmi la passiva, magari me l'ero anche segnata. 14. Basta, non sto a tirare, dai. No, non avevi tipo vantaggio a qualche percezione tu in quanto barbaro? Adesso hai i peli che gli crescono anche negli occhi. Percezione no, ho vantaggio, no, percezione direi di no. Cos'era quella cosa che diceva allerta? Non lo so, col fatto che non l'ho mai usata. Non mi è mai capitato, io non è che... Vabbè, intanto cerco. È fantastico giocare con la gente che ha il nono livello, non sa come funziona il proprio personaggio. No, no, questa è una caratteristica che non ho mai usato. Non è vero, dai. Ma mi sembra che semplicemente ho vantaggio a destrezza se vedo le cose che mi arrivano. Comunque vado a vedere. Ah, ok. Cioè, tipo su palla di fuoco ho vantaggio che sto usando. Quindi secondo me è quello che tu dici. Sì, può darsi. C'è quella okay. Tipo senso del pericolo, quella roba lì. Va bene. Senti un rumore provenire alle spalle della statua, dal culo della statua. Un rumore? Sì. Di che tipo? Del tipo cose metalliche che si muovono, tipo ingranaggi, cose che scorrono. Clang, clang, clic, clic, clic, clic, clic. È stata una buona interpretazione. Che sfregano. Qualcosa di pesante magari, di insomma, come un portone che si sposta sfregando contro qualcosa. Allora, semplicemente, vabbè, posso muovermi io. Andrei qui. Ok. Ok. Insomma, qua. Dietro la colonna, insomma. No? Insomma, così, ecco, così può... Insomma, in modo che sia coperto, ovviamente, da un'eventuale palla di fuoco da qui. Ma non da su. Però... E comunque da qui appunto come cioè, prima c'era qualcuno coperto lì dietro e non è servito perché tanto la palla di fuoco quando esplode fai il giro dello stato. È anche un barbaro. Hai ragione. Non posso cioè perché volevo fare questo. Andavo qui, guardavo e poi me ne andavo. Cioè posso fare il mio movimento andandomene, ma a metà strada fermarmi un attimo a guardare cos'è. A metà strada puoi spezzettarlo in quante volte ti pare. Hai capito? Metto un attimo, guardo e poi me ne vado. È che avevi detto mi metto lì in copertura contro la palla di fuoco. Pensavo tu credessi... Questo istante in cui guardo era... Tiro? O mi dici tu cosa vedo? Directly. No, da lì riesci a vedere che c'è una figura, qualcosa del movimento dentro la testa della statua. No, no, io intendo, scusami, che guardo là dietro, cerco di guardare dietro dove arrivava il rumore. Ah no, da lì non vedi perché c'è la statua, chiaramente. Beh, se è dietro, Cazzo dai, la stai linea di facendo? vista è quella, eh. Ma non ci arriva la No. cosa, cioè. Ma non vedi, a parte sì che lì probabilmente è già buio. Capito, E intendo. poi Questa no, linea di vista. esatto, lì comincia a esserci l'oscurità, vabbè che è scurovisione, e comunque non vedi il Esatto. retro della statua da lì. Quindi non noti nulla di strano. Ok, adesso non me la fa più cancellare. Grazie. Ok, allora niente, allora me ne vado. Cioè, capisco che il pericolo è troppo grande, non so dove arrivo. Ha fatto per Bravo. 70. Aspetta. Esatto, quindi boh, mi metto tipo qua. Anzi, facciamo così, mi metto. Qui sono coperto, però al tempo stesso posso vedere, giusto? Qui dove? Scusa, Che ecco. cosa vuoi vedere, Shu? Guardo la situazione, cioè guardo voi e se guardo, invece me ne Sì, vado, lì sei intanto che voi siete coperto. ancora lì, do un'occhiata. Sei in copertura parziale, come si credo si dica. Sfortuna. Allora, la statua è alta quanto? 60 piedi? Un po' meno, cos'era? Non 5, è un esatto. incantesimo per È deformare, 40 tipo piedi. chiudergli le feritoie. Fatta di granito. Raffigura un Porca. dio dei segreti senza volto. Ma come? Allora non 40 ha gli occhi. E piedi, quindi vediamo, io sono a 30 piedi di distanza. Se non ha il è volto, non alta possono essere più le 40 nel feritoie. diagonale, quant'è? 50. Che cosa stai misurando? Obiezione. 30 al quadrato più 40 al quadrato. Obiezione. Se è senza Sì, volto, perché ha le 50. feritoie per gli occhi? Diagonale 50. Quindi io vedo qualcuno in cima. La vedo la creatura in cima. Vedi quello che ha visto, hanno visto anche i tuoi compagni, nel senso che noti la presenza di qualcuno all'interno della testa, o vuoi dei dettagli superiori che Vorrei sapere hai? se la vedo abbastanza per lanciarne un incantesimo che necessita di essere visto. Ho capito, te lo dico subito. Oh, bello, posso fare anche questo. Oh, misuro, figo. Ok, la creatura all'interno ha una copertura di tre quarti, quindi non è copertura totale. Quindi è protetta, ma non è targettabile tecnicamente. Però Allora faccio so che cosa? sai che la copertura protegge chi ne usufruisce, dandogli un bonus o alla classe armatura o al tiro dei. O ai tiri salvezza, anche se sulla seconda parte adesso lo vado a controllare. Che cosa avevi in Ok, mente di allora fare? tiro un comando. E dico, dai, scendi che non succede niente. Allora, sì, la copertura a tre quarti dà bonus alla classe armatura e ah, è un bonus fisso ai tiri salvezza sulla destrezza. Ok, tu gli lanci comando. Che è un. Saggezza. Tiro Saggezza. saggezza con In 16. che lingua lo dici? Comune. Ok. E, 18 metri, perché l'ho aperto in italiano. Ok. Quello che devo capire è conta come condizione di charm. Che cos'è? Un incantesimo di comando. Allora, comandare. Quindi direi che lo puoi lanciare e lui farà un tiro salvezza sulla saggezza. Ma dovrebbe dire la condizione. La condizione è invece, ad esempio, quando sei affascinato come dall'incantesimo charm o quando qualcuno ti affabula con belle parole volendo, oppure altre cose ti dicono come lo sguardo del vampiro. No, appunto dico, se è charmato, cioè se c'è charm, vorrebbe dire, parlando della condizione. Sì, sì, ho cercato quello, infatti. Comunque percepisci che... chissà se si percepisce quando il bersaglio passa il tiro salvezza. Che hai detto essere 18 la classe di difficoltà? 16, 16. Beh, 16. Lo desumerà da... Vabbè, se non esegue il comando... Sì, è vero. Le conseguenze sono che non vedi niente, chiaramente. Cioè, dipende qual era il comando. Avvicinati. Ah. Allora sì. Ma d'altra parte siamo lontani. Magari è fatto con calma. Esatto. Sfortuna, hai ancora il tuo movimento. Un po'. Mm-hmm. Hai ancora il tuo movimento, infatti, dicevo. Sì. Ok. E dopodiché tocca a Race. Vardistran. Direi che mi allontano anch'io. Lasciamo lì da solo. No, stiamo tutti ritirando. Per allora, vai verso Sfortuna o verso Garrosh? Verso Garrosh, secondo me è tempo di andare oltre, giù. Giù, quindi poi arrivi 30, arrivi da Garrosh, poi fai altri 30. No. Quindi arrivi da Garrosh? Arrivo da Garrosh, sì. Qui va bene? Sì, sì, va bene. Ma è vero, lui ha ancora la testa illuminata. Cos'era? L'elmo illuminato. Athanas. Fuggite, sciocchi. E rimane lì, dicendo tu non puoi passare, giusto? Su, no. Hai fatto male, certo. A dire che ci dovevamo ritirare. No, vabbè, non c'era molta alternativa, dai, oggettivamente. Se c'eravamo tutti o io, ma così... Ma scusa, tu non potevi andare in ira e correre sopra la statua? Volendo anch'io potrei arrivare sopra la statua. Nel frattempo i teschi mi tiravano palle di fuoco. Io corro, ma verso la scala, quella in basso a sinistra. Qui? La sorpresa! Ma verso il suicidio! La mossa di Sceo! La mossa di Sceo. I libri di testo, questa si chiama... Non siamo tutti la manovra alla Sceo. E se ti trovi, scusa, il golem in faccia che scende? Ste cazzo. Preferisco il golem a un'altra palla di fuoco. Beh, dove siamo noi non possiamo essere colpiti da palle di fuoco, in realtà. Scusa, ma non potevi arrivare dove siamo noi? Ma Sceo, era quello che volevi far tu, dovresti essere contento che Giulio ha preso. No, l'ho fatto perché così non siamo tutti attaccati. Guarda che qui ci arrivava non una palla di fuoco diretta, ma l'area di cui di una arrivava. Dove siamo noi, come gittata può arrivare quasi ovunque. Quindi è meglio vederci. Però dove siamo noi non ci vede, per cui no. Teoria, come fai a sapere che non ti vedo? Io e Garrosh in teoria dovremmo essere dietro la parete. Hai detto che siamo coperti, l'ho detto. L'ho specificato. Che la palla di fuoco non ha bersaglio, ha un punto. Quindi no, lo so. Anche... La palla può di anche fuoco dire, boh, sono andati di là, ne tiro una là, ok? Può anche dire, ne tiro una là. Chiaro, è un po' bastardata da parte di Kat. Vabbè, ci dividiamo un attimo, io poi torno da voi, non è che mi metto a esplorare per i cazzi miei. Tanto stiamo andando tutti nella stessa direzione, di fatto. Vai. Allora, quindi questo era Athanas, senti ridacchiare. Sì, direi. Davanti a te, cosa? No, non davanti a te, no. Da dietro di te, perché appunto risalendo, chissà se me lo fa vedere, non so perché quando cambio mappa è sempre sfocata. Che due palle. Perché non me lo fa vedere bene? Comunque, se ti ricordi, questo era il corridoio superiore dove avete combattuto i teschi, e quindi salendo senti le loro risate venire da qua dentro. E malvagie risate. Detto questo, qui là, secondo round, questo è il secondo round, ultimo turno del secondo round. Come funziona sta roba? Non si è creati un round. Vabbè, sono arrivati tre pali di fuoco. Se non si risvegliavano i teschi, aveva senso provarci. Però se intanto che combattiamo quello che c'è dentro la statua, ci attaccano da dietro. Senza contare il rumore che ho sentito, che per ora non vi ho detto, quindi chissà. Che tra l'altro non lo sappiamo, ma quindi è da dove in teoria la bacchetta ha indicato, giusto Katta? Il rumore che hai sentito, sì. E cosa c'era sta bacchetta? Rileva le porte segrete. Quella che ha Race. Quindi non ho fatto metaplay, ma ovviamente il rumore che ho sentito quindi è una cosa che scorre, gli ingranaggi, quindi si sta aprendo una porta, però non lo sappiamo. Forse. Vabbè, comunque c'era qualcosa o qualcuno, per cui un ulteriore, non credo che sia arrivati i rinforzi, arriva la cavalleria, quindi è più probabile che sia un ulteriore nemico. Beh, come dire, visto il posto in cui siamo, sicuramente è un amico. Magari qualcuno che è rimasto imprigionato e dice finalmente. Magari stanno sparando. Uscito dalla seconda pioggia rotta. Ti offre un potere. È una pioggia di palle di fuoco. È il momento di uscire. Oddio, questa palla di fuoco. No, c'è un clima ideale per uscire dalla stanza segreta. La sto riprendendo. Ah. Oddio, ecco, ci ha sparato. No, dai, ma porca di quella troia. Questa storia che io non fuggo come un pazzo. Dalla. La devo cominciare a smettere. Dalla. Il tizio dalla testa della statua ne lancia una lì in mezzo alla Carlona. Tanto sa che dove piglia. Comunque, fatemi mettere la salvezza sui riflessi. Hai un +3. Ottimo, ho vantaggio un +3, dai, ce la dovrei fare. Sì, dovresti. Non hai più uno della luce, non so se ce l'hai. Fino a, per ora ce l'avete ancora. Esatto. 16. Sui riflessi, purtroppo, sulla distrezza, vero? La destrezza. Vedi, Katta, senso la di colore questo. Ole, ho fatto 20. Ed è troppo lontano per Laura, giusto? Io ho fatto 22. Ho fatto 20 più 4. Sì, tu sì. 24. Vabbè, che tanto comunque di mezza. Ok. Esatto. Garrosh, hai fatto 16. Sì. Giusto? Purtroppo fallisci. Come fallisci? Gli altri lo superano. Come fallisco con 16? Non l'hai passato. Grazie Katta per aver spiegato il significato di fallire. Prego. Fai schifo. Però. Ah no, non di mezzo, perché l'ira questi. Beh, almeno tu hai un botto di. Sono danni di fuoco. Sono 23 danni. Quindi vado per Garrosh, la metà per gli altri. Quindi 80 qualcosa. Vado. Giulio, quanti punti feriti avevi detto che avevo? Ne hai 31. Katta, neanche se spendo un punto pietas. No, era 17, dimmi di no. Io sono 18, quanto sono adesso? 18. Risponderò a questa domanda. Maledetto. Come sei 18? Raga, sì, avevo pescate due prima. Vabbè. Viene? Cazzo, però non c'è quello che cura. Io posso farmi qualche cura, ma così è passando. Dobbiamo fare un altro riposo. Stavolta lungo, possibilmente. Posso andare nella stanza dove c'è Pat, che prendergli la mano e mettermela tipo sul cuore e farmi una cura. provare se funziona tipo un accendino. Scarico. Ah, dai. Clic, clic, clic. Vabbè, torniamo. Quanto male stanza... sei messo, Garrosh? No, no, io no, io sono 80 qualcosa. Io sono messo male. Allora vai a prendere tutte le palle di fuoco, vai, fidati. No, vabbè, raga, torniamo nella stanza al piano di sopra. Nascondiamoci e piangiamo. Sì, aspettiamo la prossima sessione. No, ma infatti questo è il problema. No, ha ragione, ha detto bene Giulio, possiamo girare il resto del piano di sopra. Garrosh, cosa fai? Ci riposiamo. Ah, me, siamo... vado verso il piano di sopra. Da che parte? Di qua? Da dove siamo. Da dove siamo, esatto. Mi hai rubato l'omino, stavo per muoverlo. E fortuna? Poi magari arrivo più su? Ah sì, io ti ho contato come è già andato. Già su, ok. È già salito. Mi avvicino a Vardistan, qua di 20 piedi. Mm-hmm. Gli metto una mano sulla spalla e dico... Io la vedo dura. La cosa mi cura qualcosa o no? Ci stiamo separando. Mantieni lì te. Ti curo di 15. Ah, vedi? Vabbè. Ragazzi, sorpresa, che lo spero che avessi una cura. Passando di lì, magari... Facciamo un urlo anche a Reisa Patk. Torniamo su. Chiaramente. Tu, non lo capisco, così lo sente anche il vostro nemico. Vabbè, ci stiamo separando. Vabbè. No, andiamo. Sì, sì, no, mentre vado su dico faccio un urlo. No, te vabbè, abbiamo capito che te sei andato. Dico a sfortuna. Sì, sì. Allora, quindi seguite Garrosh. Direi di sì, ma non ho capito. Tu, Marco, cosa volevi dire? Che Atanas è andato, ciao. Sì. Sì, Atanas, cosa... Cioè, non l'ho visto, no, in realtà. Ti spiego il messaggio di Marco. Non fare il paladino, lasciamolo indietro, ti prego, non fare il paladino. C'è poco da fare. Diciamo, vabbè, vediamo su se riusciamo a intercettarlo. L'idea è andare su e fare il giro per rincontrarli, tanto sono tipo 50 metri. E nessuno dei due. Chissà quanti mostri potrebbero esserci in questi 50 metri. Sperando che non ci siano migliaia di mostri. Oh. Potevi venire di qua. Così mi beccava una palla. Si beccava la palla di fuoco. Non è stato del tutto sbagliato. No, però. Quindi dobbiamo cambiare la mappa anche noi, Katta, giusto? Non lo so. O magari la lanciava a me e non la beccavate voi. Così, almeno. No, infatti ha perfettamente una sua logica. Allora, guarda, Atanas, sei arrivato quasi in cima alla scala, quindi sta a te. Tanto io sto andando in un posto che abbiamo già esplorato, quindi io conosco cosa c'è. E sappiamo che c'è un golem. Sì, ma ci manchiamo da 2 ore. Ma neanche. Sì, l'unico problema è quello, cioè se incorrocchi nel golem potrebbe essere spiacevole. Ha capito, ma il golem si sente arrivare. Cioè... Ce l'ho fatta, è tornato in HD. Quindi aggiorniamo quello che avete scoperto del piano di sotto. Dicevo, Cattino, a questo quindi, punto devo vedi com'è la... sopra. Cambia per tutti, giusto? Basta che segui il... sì, di fatto sì. Sai come si fa? Sì, sì, lì c'è l'icona in alto. Ma vedi, poi... ok. Amber 1, am virgola per 1. Cosa sta succedendo? Vedi com'è la statua? È affiancata da questi due parapetti, di cui uno è mezzo crollato, ed è più alta del loro livello, la testa. Dalla testa non si vedono, chi è dentro la testa capisci che non riesce a vedere i parapetti, perché... è più cioè il cappuccio. E quindi Atanas è qua e arriva dal portone per entrare chiuso. Dal portone che aveva sbarrato, esatto. Sbarrato. Questo non l'avevo bene. Chi è che ha chiuso, stronzi? No, me lo ricordo che ho sbarrato. Faccio un giro. No, esco, rientro dalla dove ci sono i dove c'erano i barbari e rifaccio il giro. Cioè, non è che... In effetti sì, ci vuole due sì, secondi. Sì, sì, dai, scherzi. Cioè, no, aspetta che ti apriamo. No. Aiuto! Bussa. Inoltre, ho a chiuderla abbastanza bene, è meglio che quella porta stia chiusa, perché almeno sì, sappiamo che siamo relativamente al sicuro. Giusto. Va bene, noi okay, ci dirigiamo verso questa stanza. Allora, Garrosh, ritorni in alto dalle scale che avete fatto, e dove c'erano, in questo punto c'erano due porte segrete ai lati e una porta dritta. Dove vai? Due segrete ai lati dove, no? Qua, questo dove corridoio l'avete provato, perché dalla stanza delle pozioni avete, Vardistan, esatto, credo, ha scovato una porta segreta che portava qui dentro. E chi poteva trovarla, se non il paladino? Esatto. E anche di fronte a quella ce n'è un'altra porta segreta che portava alla stanza del modellino che hai sfasciato. Ah, ho capito, sì, scusami. Adesso ho capito. No, vabbè, andiamo verso la stanza qui, del qui, riposo. Io ho capito. Quindi sì, ci sono tre porte, sostanzialmente. Quale prendi? Ah, ok, ok. Vabbè, ovviamente... Ah, aspetta, vado verso il basso, perché in teoria vogliamo evitare il più possibile i teschi. Ah, però ci sono i teschi, okay, che facciamo? Aspetta, fermo, fermo. Che facciamo? Andiamo a combattere i teschi, quindi? Allora, dobbiamo recuperare Atanas, quindi direi che sbirciamo dalla ma in realtà Atanas alla fine bassa, è l'unico furbo, perché non è passa dai teschi. Noi coglioni sì, ma noi non lo sappiamo lui che fine fa. No, no, chiaro, chiaro. Però noi abbiamo preso un percorso che obbligatoriamente ci porta dai teschi. Sì, cioè, noi, quali in assoluto, se fossimo tutti riuniti, ci potremmo mettere lì e dormire lì. Ma non erano tutti morti i teschi, sono respawnati. Rispawnano. Sono molto cioè che tu sei a 18 è impossibile con... o facciamo un riposo breve qua, allora che recuperi giusto, cioè, i piedi o abbiamo perso Atanas, speriamo che se la cavi catta in un turno. Però il personaggio riesce da dove sono io a andare nella stanza del riposo, la chiamo così, la stanza del riposo. O col fatto che c'è la porta, perde tempo. No, in realtà io un'idea ce l'avrei. Sono 30 piedi, in un movimento ce la fai tranquillamente. Allora, scusa, andiamo tutti direttamente nell'altra stanza e sbarriamo la porta. Fate rumore nella stanza del castello, così i teschi magari si avvicinano lì e poi... Esatto, se no, l'alternativa è fare un diversivo. Ah sì, potremmo fare un quindi diversivo. Tipo, vado io. Apparire sopra e poi gli altri passano giù. Oh. Vado io. E poi allora, dopo ci ribecchiamo una volta che abbiamo... Va il cotico malvagio a fare diversivo, ok. Quindi siamo noi diversivo. Perché voi non siete capaci, è chiaro. Vabbè, quando sentiamo Sceo che fa casino nel corridoio, noi andiamo giù. Apro la porta qui e comincio a sbattere, clang, clang, contro lo scudo. Okay. Allora, e quando apri la porta... I teschi sono lì che stanno sbirciando dalle feritoie per vedere se riescono a sparare a qualcuno. Quindi tiratemi l'iniziativa. L'iniziativa no. Schifo. Rega, ma sto facendo solo dei gran venti. Ah, certo. Se solo ci fosse... Adesso c'è esatto, la storia. Taggarci direttamente. Approfitti perché Arci ha il compleanno della sorella. Esatto, io ho fatto solo 9 comunque, il diversivo va a rilento. Allora, Garrosh 9, Vardistran 21. No, 20. Secco. Sì, no, più. Io 13. 13. Pietro. 13, Atanas, così andiamo in parallelo. Io faccio 11. Quindi sono molto bene. Ok, direi che 11 11 11 11, quindi sono 18 18. Ok, allora ok, Vardistran e Sfortuna quindi aspettano il segnale, se ho capito bene. Esatto, aspettiamo, prepariamo l'azione quando sentiamo il casino di coso. Okay. Dire, cercate io, ovviamente, di fare meno rumore possibile. Va bene. Beh, cioè, veloci. Ok, quindi Garrosh apre la porta e fa... Io vedo veloce. E fa rumore. E... Due dei tre steschi si girano, steschi, e gli sparano addosso dei lapilli di fuoco. Delle palle di fuoco. No, sono... Sono dei piccoli raggi. Il terzo spara 5 palle di fuoco. Il quarto spara 200 palle di fuoco. L'ottavo... Sì, si chiama proprio Fire Ray, raggio di fuoco. Quanta classe armatura hai? 19. C'era la luce, mi dava 19. più uno. La luce mi dava più uno, allora 20. Hai 20 di classe armatura? Minchia, ma che, di cosa ti lamenti? Cioè, allora, armatura di me, ragazzi. Purtroppo è perché 20. ho anche lo scudo. Uno torre. Ti colpisce del primo. Lo scutum. Il primo teschio ti fa 11 danni con uno dei due raggi. Beh, sono dei piccoli raggi di fuoco. Sono solo 11 danni alla volta. Secondo, anche il secondo ti riesce a colpire con uno dei raggi. Di cosa ti lamenti? Di cosa ti lamenti? Hai 20 di classe armatura. Che cazzo ti lamenti? Il secondo ti fa 7 danni di fuoco. Tocca a te. Il terzo invece mi ignora. Il terzo non si riesce a girare in tempo, sei più veloce tu a fare quello che vuoi fare. Okay. Ed è una pessima cosa. Ma non tocca. Comunque, il segnale è scattato, quindi voi nel frattempo sgattaiolate velocemente e chiudete la porta, quindi condannando Garrosh. Sì? Porta no, sì, beh, non la sbarriamo. Chiaro, state voi dietro la porta e... Sbarriamo, certo, se sentiamo qualcuno che dice aiuto, fatemi entrare, lo sbarriamo, è ovvio. Allora, sbarriamo, certo. Quindi, Garrosh, che cosa fai? Richiudi la porta dicendo scusate, ho sbagliato bagno. Non è questo il bagno dei barbari. Richiudo la porta e poi continuo a far casino un po' nella stanza, perdo 2 secondi, tra virgolette, e poi mi muovo, poi gioco. Tante teschi mica possono entrare. No, però intanto continuo a far casino, magari... facciano lì. Esatto, vanno comunque in quella direzione. Sono in quella stanza faccio un gran bordello, poi dopo si... Okay. E poi, rimani nella stanza o vai da un'altra parte? No, vado giù, comincio ad andare, faccio il percorso campato loro, vado giù di 2 stanze e insomma, fin dove arrivo. Quindi, ok, quindi nel frattempo vai qua. Okay. In realtà si potrebbe anche pensare poi io di ho saltato la Atanas. Non posso arrivare direttamente? Si potrebbe anche, non ho capito. Pensare di imprigionarli in una stanza. Non ora. Sì, poi sì, volendo, sì. No, non riesco ad andare già nell'altra. Hai 20 col, diciamo, col facendo trambusto, eccetera. La soluzione è un'altra. Ucciderli di nuovo e distruggere le feritoie. Tutti i muovi da 5 in più, arrivi fino a... Oppure qualcuno potrebbe fare tipo un tiro di religioni per conoscere queste creature. Questo, ma se risparmiano evidentemente... Ma li conoscevo già, mi sa, eh. Li conoscevi già. Li conosciamo, però... Ma sono però... delle cose che qualcuno evoca o... Cioè, no, sono... sapete... Perché dalla strega... È un modo per eliminarli. Sapete quasi sicuramente, non mi ricordo per quale motivo, ma sono abbastanza sicuro, che i Flameskull sono i resti di quello che rimane dei maghi quando, dopo che muoiono, e appunto i resti di maghi morti, quando viene fatto un rituale oscuro, si risvegliano come questi teschi volanti contornati da fiamme verdi. Seguono, quindi non seguono i comandi di qualcuno, sono... Questo non lo sapete, però sono i classici non morti, brutti cattivi. E fammi un religion, Vardistra. Cos'hai contro i brutti e cattivi? Ok, stavolta non l'ho fatto 20, 9 totale. Ok, capisci che hanno qualche qualche potere che gli permette di ritornare in vita, in non vita, diciamo. E quindi, insomma, immagini che possa esserci un qualche cosa che possa prevenire il loro ritornare, ma posso, non sapresti cosa. Cioè, sì? Alla fine è la tipo la terza, no vabbè, sì, li avete visti diverse volte, quindi alla fine cercando di capire come poterli eliminare. Vai, fai l'investigation. Che palle, scade. Ok, che schifo. 9, 10, 14. Ok, la tua mente ripercorre i dettagli che magari vi erano sfuggiti in passato, di quando li avete incontrati a Kretsk, e durante l'assedio e durante il combattimento che avete fatto con loro, avevate con voi due vostre vecchie conoscenze, che purtroppo è da un po' che non si vedono. Richter pensavo a Esmeralda. No, la Esmeralda, quindi tre conoscenze, e in particolare il vecchio Van Richten. Casimir si è dimostrato inutile. Thierry, insomma, adesso che ci pensi, sì, a un certo punto, dopo che li avete combattuti, non si era visto per un po', poi è tornato. L'ultima volta che lo avete visto, appunto, quando è andato a distruggere la catapulta che li gettava in città, e appunto, dopodiché loro non si sono più non sono più rinati. Vabbè, quindi ha dominato la catapulta. No, quelli che avevano già buttato non sono ritornati. Quindi Van Richten probabilmente aveva fatto qualcosa per evitare ciò. Van Richten, quindi il tuo intuito ti dice cacciatore di non morti, vampiri, eccetera. Ha qualcosa di sacro o qualcosa che appunto serve per spezzare maledizioni, qualcosa che funziona anche con i vampiri, qualcosa che funziona, sai che lui oltre ai vampiri combatteva anche i licantropi, e quindi qualcosa che spezza le maledizioni ce l'ha per forza, o in generale qualcosa che dissolve la magia. Basta un paletto nel cuore, ma non hanno il cuore. Quindi nel frattempo Athanas... spezzare maledizioni, l'incantesimo, acqua benedetta. 5, 25. Arriva fino a fuori, dopodiché... Allora, quindi 1, 2. Che è uscito Athanas? Athanas continua a fare il giro. Questa è la classica scena, dovremmo ruolarla un po', tipo no, è morto, non lo vedremo mai più, poi torna fuori tutto innevato, che cazzo c'è? Athanas! No, Athanas! Poi, puntare la marea, con notizie e con consigli. Ok, quindi Vardistran, cosa fai? Athanas il malvagio, sì, Questo era il mio Guardo, nome. guardo sfortuna, dico, Ora sono Adamas, è troppo tardi per Garrosh e distruggo la porta. che No, non è vero. No, non è vero, dai. Sono nella stanza accanto e gli È fanno una troppo porta. tardi. Va bene. Tu in realtà dovresti essere felice, forse hai fatto fuori due personaggi scomodi. Abbaccio. E direi che a questo punto debarro la porta, l'altra porta. Mi toccherà rifarlo. Vabbè, ci sta E l'idea, quella lì l'apro. torna da Sì. dentro. Ok. C'è il golem. Abbiamo la palla di fuoco. Ti prego. Cosa vedo? Oscurità. Niente perché la tua vista è No, stata non alla. oscurità, pezzo di Ah, c'ha merda. l'elmo. Oltre la luce che fa il tuo elmo, l'oscurità. No, non vedi Atanas in giro. E senti però un gran rumore provenire dal corridoio dei teschi. Senti che stanno gridando, emettendo dei versi Stanno tescheggiando. sovrumani e molto lugubri e molto fastidiosi. Las chiede se vogliamo un ospite in call per disturbare le kill di Kata. Questo sicuramente. Si deve entrare lui però. No, basta mettergli il link di invito. Linkateglielo. Come fa a sapere che siamo in diretta se non ci segue? Ottima osservazione, bravo. Siete Forse ci riusciti? segue. Forse è un Sì, follower, adesso glielo attenzione. apro WhatsApp e glielo mando. Se WhatsApp decidesse di aprirsi. Forse è diventato un nostro follower. Va bene, se non lo vedo, No, ma chiudo. Se posso, se no, dici posso. Las, se non lo vedi arrivare, No, chiudi sì. tutto. Chiudo la diretta. Ciao. Ciao, grazie per averci seguito. Questa puntata breve di oggi. È sfortuna. Io credo che me Ecco, ne improvvisamente sto. caso. Sì, ecco, è il nostro salvatore. Ci cura tutti, cazzo, è il Chierico. Che troia, sì. Porca troia. Sì, cazzo, sì. Eccolo. Oh, miseria, quanto è alto il volume? Eccolo. Attenzione. Wow. Ibir. Non si vede, non mi si vede però. Posso cambiargli Non anche il ancora. Si nome? vede. Sì. Com'è che si chiamava? Il Bam. curatore, credo si chiamasse. Bayern. Ah, Eccolo. sì, è vero. Com'è? Eccolo. Siete tutti vivi? Bayern. Ancora È per poco. abbastanza. Vezza ancora 18 punti vita, Eccolo, su di ex lui. Bayern. Ex Bayern. Bayern. Ciao, Las, Ma grande, benvenuto, ho benvenuto visto in una diretta. foto. Ho visto una foto dei dadi di Arci che facevano 20, ma non c'è Arci. Dopo quello è il mio di 20. Ah, Ecco un ok, era modo un per tag. sfotterlo. Allora ci segui. certo. Su Instagram sì, non su Instagram, Facebook. Facebook no. Come no? Sì. Non ci segui su Cioè, no, non Facebook. guardo le dirette, però sì, No, vedo non che ci ci sono le segui. dirette. Ah, Hai un'altra ragione. notifica che fastidi. Silenzia per un anno. Segnala. Chiaro, chiaro. Per pornografia Spam. No, infantile. ma Forse è volevo l'unica cosa. interrompere, mi Forse è seguo, mi l'unica seguo. cosa che non esce dalle nostre sessioni. Diventa l'unica cosa che non è mai. Sì. No, aspetta, no, c'è anche quella. Come? La puntata del bordello a Roma. È vero. Quindi c'è anche la pornografia infantile, fa quello che è, Esatto. Pensavo Maltrattamenti sui diventassimo minori, tu razzismo. per colpa di No, Sauri. razzismo no, razzismo no. Ma ci Per colpa segnalano di quando Sauri, non ne facciamo. colpo il giovincello e la giovincella. È che qui non troviamo più zingari. in questa campagna. Allora, che abbiamo evocato, perché sostanzialmente in questa sessione non possiamo fare più nulla se non scappare, rintanarci e piangere. No, ma ho letto, infatti vi sono venuto in aiuto. Bravo. Per cui adesso, in modo che... In un a meno che tu non voglia giocare a Arci, che tanto no, ha... No. Però c'è stata una sessione però, che mi sarebbe piaciuta Laz, perché si prendevano i poteri gratis. Però ho letto che Arci tocca tutto. Esatto, si prendevano i poteri gratis. Esatto, quando ha capito che poteva abusare di qualcosa. Io la parola amici. Catta, quanto posso fare di movimento? Faccio 60 piedi per poter e mi lancio per toccare il sarcofago prima che qualcuno dica qualcosa. Sì, effettivamente. Qualcuno. È più o meno così. Se prima che Marta dica qualcosa. È davvero così disperata? Insomma, beh, diciamo che non se la passano benissimo. 4 o 5 soggetti che ti lanciano fuoco. Palle di fuoco in testa. No, in realtà adesso siamo tornati alla normalità, siamo divisi. Parlate per voi. Per te è troppo tardi, l'ho detto. Tu sei quello che ha punti feriti, cosa vuoi? Esatto. È vero. Va bene. Atanas, vai. Tu continui a fare il tuo giro. Il giro. 60, arrivi all'imboccatura della grotta. Quindi, prossimo giro sei praticamente dentro. Continuate a sentire grida dei teschi all'interno. Garrosh, sbircio dalla porta, l'apro leggermente. Non so che porte sono queste. Delle normalissime porte. Allora sono fatte di ambra anche queste, però piccole, cioè non è che devo muovere un masso per aprirlo. No, queste sono aperto, delle porte single. Sbircio, quindi senza farti notare. Sì. Quindi mi fai uno stealth. Dai, se non vuoi farti notare, prova uno stealth. Dai, per scontato che ci riesca, ovvio. No? Posso fare domande scomode? Sì. Certo. A che livello siete? 9. Ah, quello di quando hai giocato anche tu. No, a un livello più basso di quello dove... 19. A un livello più basso dell'ultima volta che hai giocato con... 19, dai, è un buon tiro, Ottimo, vedi che i teschi si sono rivolti verso le feritoie e stanno gridando qualcosa nella direzione dello stanzone. Cioè stanno gridando versi, una specie di campanella di allarme, diciamo. Ok, vabbè, io se vuoi con questo tiro o con un altro tiro, se vuoi lo rifaccio, cerco di andare nell'altra stanza senza farmi notare. Vai, riprovaci. Perché? Andrà bene questa volta, me lo sento. 17. 17. Insomma. Non si accorgono della tua, esatto. Riesci a sgattaiolare dentro. Dopo aspetta che mi aprono la porta. Arrivi alla porta e la spingi. Sfortuna che senti la porta che si sta aprendo. Cosa fai? Vabbè, dico, sono io, fammi passare. No, sfortuna, hai il microfono spento, ma il tuo gesto si capiva benissimo. Do una stocchettata. Cosa? Per me è un no. Non lo dovevi fare. È finita per lui. Faccio una prova di forza per aprire la porta con forza. Con destrezza. Posso farlo? Devo riaspettare il mio turno? Non so. No, puoi farlo, certo. Cata, ti stanno attaccando le spalle. Sì, esatto. Sei fortunato, ho fatto 8. No, ma ti stai opponendo all'entrata di Sceo. In realtà io sto dando una stocchettata con lo stop, così fa. Sì, hai sentito la voce di Garrosh che ti dice sono io, fammi entrare, e hai tirato una stoccata. Ma perché sto facendo questo? Comunque, appunto, la porta tu ovviamente la riesci ad aprire, nonostante la stocchettata. Nel momento in cui però dici sono Garrosh, fammi entrare, uno dei teschi ti sente parlare. Ma non è che urlo, catta. Lo so, ma appunto l'udito. Se becca anche me la palla di fuoco mi fa incazzare. Non hanno le orecchie, però hanno l'udito fine. Sì, esatto. Ma non hanno l'udito particolarmente fine, però in generale Ah, allora sei tu che pensavi di dire sono Garrosh, fammi entrare, mi vado sono Garrosh, fammi entrare, cazzo. No, ma Giulio lo sai. Infatti, dal teschio, dal teschio di fuoco, fa, non mi sta facendo entrare, hai visto, la vergogna. Questa... Non è il primo personaggio che da 50 metri sente un sibilo, per cui... Dai, Sceo, no, dai, anche se fosse, questo non è particolarmente lontano, per cui sia così ragionevole che ti sento. Sono 120 metri, 150, Sceo. No, non so quanti piedi ho fatto, ma... Avrò ancora movimento per uscire o mi devo per forza beccare la palla di fuoco? Intanto ci becchiamo tutti la palla di fuoco. Ma secondo me forse l'hanno finita. No, forse l'hanno ancora uno. Vabbè, ok, ne vedrà uno. Spero che non spari una palla di fuoco dentro la sala. Cioè, va bene la crudeltà di Katta, però. Non so quanta intelligenza hanno, ma se mi vedono da lì possono pensare che ci siano gli altri. Vediamo se posso fare. Ma anche se tu fossi da solo, perché devono provare a risparmiarti? Per gentilezza, no, ma mi chiedo se il mio movimento finisce lì. Non ho visto quando hai misurato. Sei spacciato, l'ho detto prima. Ma dai, riesco anche a entrare. Cazzo. Oh, basta. Prima ti prendi la palla di fuoco, poi quello che rimane di te, forse entra. Sì, sì, no. Entrare riesce a entrare, però non riesci a. A e chiudere poi, la porta prima che poi, uno spari. E poi che sfortuna che tu non sia di fianco a me, ma sfortuna. Cioè tu sei lì sulla soglia che occupi la porta, ma arriva la palla di fuoco che ti spinge dentro. Esatto. Dovresti bello. Anche ringraziarli. Bello. Sono io! Oh cazzo, sta davvero facendo la palla di fuoco? Vedo che comunque non è cambiato molto. Oddio, è pazzo. Sono 20 piedi. Questi. E non si beccano tra di loro pure, però. No, non sta lì. Adesso la volevo fare dalla dimensione giusta. E si sono... E dove no. sta? Per Ho arrivare fino malissimo. A dove deve essere la dimensione giusta. Se... Volevo verificare queste cose. No, no, no. Sto dietro il... Io sono dalla colonna... Dovevamo barricare la porta e lasciare il garro. Ma scusa, ma come fanno? Dice che perché, ecco perché cosa sbaglio. Devo cosa fare sbaglio? Così. Giusto, devo cliccare. Il tasto uccidi i personaggi e poi scompaiono. Perché non chiude la porta dietro di me? Perché nel mentre in cui entri e stai per richiudere, te ne arriva un addosso. Questo gioco non possono giocare a metà del mio tour. Avranno preparato l'azione, ad esempio, hanno preparato oppure, l'azione. Oppure no, ma succede lo stesso. Finché stavano fischiando, se qualcuno Ironia. Diceva devo entrare, e se Dai. Volta lo distruggono. Sono Dai, Vardistran, hai vantaggio al tiro a salvezza perché sei mezzo fuori. Ah, però tu stavi sbirciando fuori, dai, hai anche più due di bonus al tiro. Cioè, il vantaggio è il più due o solo il più due? Significa che comunque si becca mettere dei danni, Sì, tutte e due. Infatti. Sì, va bene. Diciamo che... Vabbè, dai, allora. Non è la prima volta che cadi, su. Sì, e non è la prima volta che cado in modo molto stupido. ho più qualcosa dato da luce, no? Di luce più uno. No. Luce più uno. Anche i tiri salvezza? Sì. Ah, cazzo, allora quello di primo round 17. Oh. Catta. Oh! Col vantaggio! Col vantaggio! Vabbè. E comunque stavolta lo passo allora perché faccio 17. Col vantaggio! Uguale a prima. Ma quel terreno è minore. Io ho fatto 9. Tu hai fatto 9, quindi tu prendi 28 danni e gli altri 14. Posso dirlo che se li merita? Lo posso dire? Stai fuori, cosa vuoi? Niente di personale, però direi che questo si chiama karma. Poi. 14 gli altri? Gli altri 14. Sei dopodiché... Rega, sapete cosa ho fatto? Guardate la storia. Atanas, rientri, vedi i tuoi amici altro tutti sbruciacchiati. Ma 14, quindi sono a 4 comunque io. Eh sì. No, perché sfortunato l'ha curato, un po' 19. Ah, sono fortissimo. Ne puoi prendere un altro? Sì, è vero. Ti aveva curato con le sue... Ma raga, abbiamo tanto, per tutte le palle di fuoco che ci siamo presi, potevamo rimanere lì a combattere. Che ironia. Ma è che fa 2.20, incredibilissimo. Oh, li sto postando tutti. Vabbè, anch'io posso mettere un dado sul 20 e fare la foto. Sono Giulio. Non credo nella magia dei 20. Però è un 20 di, esatto, di diverso. Questo però col vantaggio, perché l'altro è un 7. Ok. Vabbè, quindi io entro e dico... Tu entri... Raga, perché non avete preso le scale? Era così sicuro. Anzi, sgridò anche Vardistran. Perché hai tolto le cose, i fermi da quella porta? Perché hai sbloccato quella porta? Non sapevamo se dovevamo correre in tuo aiuto. Io sono giù intanto, ve lo dico. Ah già, qualcuno deve fare medicina su Sfortuna. Wow. Ah, è sotto? Chi preferisci, sì. Sfortuna? Il barbaro peloso? Il guerriero psicopatico? Vabbè, quello che non mi ha appena fatto venire una palla di fuoco addosso. Sei fortunato, Sfortuna, c'è anche un paladino. Ma tanto io medicino non ho dietro di che, però gli posso fare un cura ferite. Ironia. Gli faccio un cura ferite, che è, cos'è, un D8, non mi ricordo, no, un D4. Il D8. Un D8 più la caratteristica. Che il mio caso è il carisma, quindi più 3. E così sia, tieni, 6 più 3, dove? Crepi l'avarizia. Quindi sono 9 adesso. Sei 9. Mm-hmm. I teschi fanno ancora rumore. Direi che sbarriamo tutto e preghiamo che non ci assaltino da altre parti. Niente, riposo lungo, cioè non c'è molto da fare. Avete anche chi fa la guardia fuori. Ovvero? È vero, gli altri li abbiamo persi in realtà, tecnicamente. I teschi fanno la guardia a chi arriva. Solo da un lato, tanto l'altro lato la porta abbia sbarrata. Bisogna risbarrare le due porte. E... Ah, è vero, Vez l'ha sbarrata. Risbarro la porta. Allora, risbarri le porte. D'ora vado. Ok. Bene. Stam. Oddio. Scusate. Strad! Un colpo di questo. Strad! Scemo è caduto. Sono qui. Strad! Ok, continuate a sentire le grida di questi teschi che berciano e strepitano. Vi tengono compagnia per più o meno un quarto d'ora. È una colonna sonora. Ma io posso lanciarmi un incantesimo del sonno su me stesso per riuscire a dormire anche con i testi? Cazzo. Che fanno tutto il casino. È un'ottima domanda. Non so però se richiede concentrazione. No, non richiede concentrazione, sonno. Geniale. Però non credo che sonno conti come riposo lungo. No. Ok. Ma non puoi dormire come fanno gli altri. Cioè, normalmente chiudi gli occhi, senti le pecore. No, ma era solo per non sentire l'urlo dei teschi al primo quarto d'ora. Ah. Vai fuori e uccidili. Allora. Dopo 20 minuti. Beh, dovrebbero averle finite il palio di fuoco, quindi potremmo anche provarci. Prima o poi. Oppure fai un personaggio nuovo e nasce riposato. Funziona, è provato, funziona. Non è che arriva un chierico a salvarci. Ma non era diventato cattivo. Tanto ormai sono tutti cattivi. Metà della carne della compagnia è malvagia. Credo più di metà. Ah no, sì, metà. Ufficiosamente. Dopo 20 minuti sentite di nuovo un suono che ormai vi è familiare. Pesanti passi che si avvicinano nella vostra direzione. La frequenza è più rapida di quelli che sentivate le ultime volte. Vez, tu pensavi di riposare? Infatti vediamo se si apre il golem, ci apre. Cosa fate? Noi stiamo dormendo, siamo svegli. Voi siete stremati, che vi siete, immagino, distesi per cercare di riposare, ma non siete addormentati, siete svegli. Vabbè, anche perché con le urla dei teschi non era facile addormentarsi. Io mi appoggio alla porta perché se il Goin vuole entrare, spingere più forte di quello che spingo io. Okay. Ok, io mi faccio una cura ferite su me stesso di primo livello. Sì, beh. Lo faccio perché ho una cintura della forza gigante. No. Mi curo di 10, yay! Oh. E poi ti muovi anche? Sì, mi muovo verso l'uscita. Quella per fuori. Come siamo messi a punti ferita? A parte io malissimo. Ma quello che è messo meglio ancora Garrosh con 54. Poi ci sono io che sono 48, perché ho fatto la strada senza ostacoli. E poi tu e Marco 19. Allora, anch'io mi faccio allora un cura ferite di primo. Okay. Vorrei ricordare a Laso una cosa, che magari lui non ricorda. Il mio totale dei punti ferita sarebbe 148. Non sei mai stato così in alto. Mi faccio 8 punti ferita. Ricordiamo a Laso cura. Perché in realtà, Katta, spiegaglielo tu, perché in realtà sono 147 i miei totali, ma non 148. Perché? È tipo dall'inizio, quindi stiamo parlando di 3 anni fa praticamente. Quando qualcuno mi ha curato... Allora spiegaglielo. È ancora rimasto così, no? Gli hai passato la è ancora così. Sì. La tua mononucleosi. Si fide. Porto sempre con me il tuo ricordo, quindi. Sì. Madonna, ragazzi. Ok. Quindi, sfortuna sicura va. Vardistran sicura e ti muovi da lì. Altro show, perché non te lo sei fatto rimuovere da Richten? Non ho capito. Perché non te lo sei fatto rimuovere da Van Richten? E si è scordato. Sto un po' più in basso. Sapevo però che non mi allontano da troppo. Da sì, mi sarò scordato. Mi ha ritrasformato in umano, che io l'ho diventato mezzo cane. Va bene lì? Al più 3, Giulio, in caso. Basta che tu mi dica, mi posizioni in modo da dare il bonus a Giulio. Comunque sì. Però allora va. Quindi... Garrosh, cosa fai? Rimango al centro della stanza. Cioè mi metto qui. Davanti alla porta, insomma. Ok. Vieni anche tu a tenere la porta. Me lo dici espressamente? No, ti guardo però in maniera implicita. Ma Giulio è inferiore, non è degno di tenere la porta, tu basti te. E infatti io non glielo dico, però lo guardo, cioè piuttosto che stare inutilmente in mezzo alla stanza. Un po' non va bene, dai, con un po' di riluttanza. No? Pensavo ce la facessi da solo, ma ti aiuto. Ma io mica ho chiesto il tuo aiuto, anche perché sarebbe stupido parlare con un golem dietro. Ah sì, perché parlare può essere che attira i nemici e ti colpiscono. Fatemi entrare, sono Garrosh. Va bene, lo aiuto. Ok. Non penso poi che entrerà. Dio, porca troia. Ma è a posto. Vuoi proprio che entri, ma figure. Cazzo vuole entrare? Sentite una grande forza che spinge la porta e cerca di entrare. Sì. Cazzo, sicuramente non è il gol. Non è che è Pat che vuole entrare. No, buono. In pratica, io contrasto la forza facendo, cioè, sperando che lui pensi che la porta sia bloccata a un certo punto. Esatto, l'idea è quella. Sì. Va bene. Tanto alla fine, tra il fatto che abbiamo bloccata e che siamo in due, dovremmo avere qualche vantaggio. Non è più. Appunto, o uno di voi due tira con vantaggio, o tirate entrambi. Alla fine. È uguale. Tirate. È uguale. Dai, tiriamo entrambi. È più figo. Decidete voi. Sì. Vabbè, dipende. Facciamo un po' di metaplaying. Chi è più forte? Tu. Scusa, non ha più senso che io con la cintura, della forza dei giganti tiri con vantaggio. Ma è più figo. Dovrebbe ammettere che quindi sei più forte di lui. No, dai, tiriamo un dado a testa, è più figo. Tiriamo un dado a testa, più carino. Ma se faccio una prova, almeno non ti possono incolpare per il fallimento. No. Tirate entrambi. Quando si fa una prova di forza non si aggiunge anche il bonus di competenza, no? Proprio puro. A meno che tu non stia facendo o è un athletics. Non so se è un athletics. Dipende cosa stai facendo. È un athletics, secondo me. Dipende come mi descrivi quello che fai. Capisco che in questo caso ci siano molte poche cose da descrivere. Quindi sì, puoi usare il tuo fare una prova di athletics. Allora è un 15. Ok. Sono tirato benissimo. È un più 8, è un più 8, ho fatto 7. Vedi. Vabbè, ma lui ha più 24, ha fatto infatti uno, io bene. Hai detto 25? Che sì. Ironia. Che ironia. Riesci a tenere chiusa la porta, che ha un mini sussulto. Vedete tipo la polvere che viene scossa e scende giù, ma la porta resta chiusa. La forza continua o scema? Seguono attimi di assoluto silenzio, anche i teschi hanno smesso di urlare. Ci lasciano dormire, tranquilli. Oppure ci sono fuori. Rimanete lì in attesa, esatto. No, non lo so. Io sono tipo super in tensione fino per 5 minuti buoni. Sì, direi di sì. Perché la mia paura è che stia prendendo la rincorsa. No, ma non si è proprio più mosso, nel senso che non abbiamo sentito neanche i passi, niente. Cioè, se prendesse la rincorsa, sentiremmo. Cazzo, è passata appena una manciata di secondi, non immaginarti chissà quando. Però allora sì, rimango anch'io così. Però a te è giusto che sembrano un'eternità, perché effettivamente c'è la suspense nell'aria. Sì, rimango così anch'io. E volevo vedere la porta. E stavano scritte, l'avevo pur visto. Le porte vengono completate, le due forze vengono stritolate. Esatto. Oddio. Hanno un buco nero, anzi un buco di ambra. Eccola, perfetto. La porta viene investita da uno schianto, qualcosa la colpisce. Il colpo è efficace. Bello non esserci. No, ancora meglio. Che bello esserci da spettatore. Che schifo. Cosa stiamo puntando a far arrivare la fine della sessione, che poi la prossima spero anche ci siano Salla e Arci. Che nel mentre sono stati a riposo lì dentro. Ma adesso onestamente, infatti, sì. Anche se ci fossero non lo stati so perché comunque... non ha senso, perché anche se arrivano, cioè noi siamo messi... è uguale, soli fanno non niente. Sarebbe cambiato niente. No, ho provato a scappare dalla cosa, speriamo che qualcuno mi sopravviva. Forse aveva due pesanti schianti, siamo pronti. Due pesanti schianti investono la porta. Rimane ancora in piedi, ma cominciano a formarsi grosse crepe. A breve potrebbe cedere. Un grosso schianto, senti come se l'avesse investita un ariete, e per la precisione il colpo si è infranto nella parte alta della porta, il primo colpo sull'anta destra e il secondo colpo sull'altra anta. Posso intuire che sia semplicemente il golem? Sì, sono dei colpi molto forti di una creatura molto grande. Fuggiamo un secondo fuori e... Non si può riposare fuori. Capito, non è fuggiamo fuori, è fuggiamo un secondo, cioè noi usciamo. E poi? Il golem non può passare a quel pertugio. Il golem non credo neanche che esca dal pertugio. Quindi arriverà nella stanza, si guarderà intorno e tornerà via. Si spera, però se ci distrugge se la porta se così la vedi possiamo andare anche nella stanza segreta. Ah, è vero che c'è la stanza segreta, andiamo nella stanza segreta. Solo che se entra nella stanza segreta potrebbe essere un problema. No, non è una brutta idea nascondersi. Allora facciamo così, usciamo e poi nel caso distrugga la porta riposiamo nella stanza segreta. In realtà nella stanza segreta è la mossa migliore, perché nell'altro non abbiamo scontato tempo, cioè ci facciamo chiamare. Cioè, a parte sfortuna che c'è già. Beh, quanto è distante? Dopo dove siete la porta segreta? La porta segreta sì. È dietro di me. No, l'uscita, dice. No, no. 40 piedi, è 40... Cioè, due movimenti, è un turno. Ma lì dentro, secondo me, andiamo a metà della velocità. Andiamo a metà della velocità, catta, no? Sicuramente per questi, cosa sono, 10-15 piedi, non si può correre. E finiamo in un punto freddo, vabbè. Non lo so. Come quello in cui siete adesso, non è molto diverso. No, vabbè, no, dove ero. Allora... Li abbia riposato, mentre fuori non lo possiamo riposare. L'unica cosa che dobbiamo pensare è ci fidiamo della porta segreta che il golem non la caghi. Ma ci entra dalla porta segreta? Oh, se la sfonda. Ma no, forse ha più senso che usciamo direttamente e poi quando la situazione si è calmata torniamo dentro. Il tuo dubbio è se la porta è abbastanza grande per farcelo passare o se la porta è... Oddio, anche sì, magari non ci passa, è vero. Quanto è grande. Però, non avendo visto come è fatto il golem, è difficile rispondere. È vero. Hai ragione. E sappiamo che è molto grosso. Aspetta, visto dove ha dato i pugni sulla porta, però... Magari gli ha dati mentre saltava, in realtà è un annetto. È alto 1,50 m, ma le braccia di 2 metri. Il problema è che fuori è dura. No, ma il discorso che dice Giulio è di stare un attimo fuori, anche solo mezz'ora. Il tempo che il golem se ne torna via, tanto il golem fa un sacco di rumore, quindi ce lo sentiamo bene, non è che dobbiamo stare. Cioè, il problema è che dopo noi torniamo comunque in una stanza dove c'è la porta ma dopo riposiamo in una stanza segreta. Vabbè, come volete, quindi andiamo verso l'uscita di là. Secondo me è sicuro che il golem non ci raggiunge fuori. Qui nella stanza segreta, se invece ci becca, è un vicolo cieco. Quando io vedo l'ultimo di loro che entra nel pertugio, corro anch'io. Allora. Continuerò ad usare, se per voi va bene, l'iniziativa di prima. Sì. Quindi, Vardistran. Vado. corri fuori. Sì, nel momento in cui ho il segnale da parte loro, sì. Ok, usando il tuo movimento riesci ad arrivare alla fine del... Beh, coso. Uso entrambi, direi. Esatto. Ah, ok, sì, posto. Sfortuna. Io preparo un incantesimo come azione. Quando qualcosa entra dalla porta, lancio Phantasmal Force. Marco è un cazzo di golem, è resistente alla magia. Vabbè, metti la salvezza sull'intelligenza, sarà resistente come vuole. Ti ricordo che lo, per preparare l'incantesimo lo lanci subito, quindi spendi subito lo slot. Dipendentemente sì, se poi... Ok. Vabbè, tutto questo per fuggire è uno onesto. Vabbè. Okay. Athanas. Non è Reza, sono qui. Io aspetto che Sheo se ne sia andato e poi me ne vado. Ok. Garrosh. Però ora aspetto che Athanas se ne va e poi va. No, scherzo. No, esco. Anzi, prendo Garrosh e lo butto fuori. Il golem. Sono Garrosh, fatemi entrare. Adesso arrivo, sono Garrosh, fatemi uscire. Ok. Mentre passo altri due schianti. Sfortuna, glielo dico, fatemi uscire. Altri due schianti investono la porta. Questa volta mi sa. Questo è lo schianto che la tira giù. Allora? Mi sono scordato quant'erano. Scusa, ma prima, sì, scusa, prima aspetta, Katta, prima dello schianto in teoria non c'è Giulio che parte perché ha preparato l'azione. No. Tu non ti eri mosso. Io? Perché sei ancora lì? Sì. Ti avevo visto che prendevi le misure. No, non sono stato io a prendere le misure. No, intendo. Ero io. Guardavo dove arrivava. Okay. Boh, vado. Hai visto dove arrivava? Sì, abbondantemente ci arrivavo. E poi io corro su. Okay. Beh, in questo caso non ti aiuta particolarmente. Nel momento in cui esco io non si attiva l'azione di Giulio che può uscire. Ma non so, perché io ho solo un'azione tecnicamente, quindi ho solo 30 piedi. Beh, però vai in fondo alla stanza, non ti prendi gli schianti. 13. Il punto è, con gli schianti lui la apre anche. Il punto è che effettivamente... Però se tu hai detto preparo l'azione quando Sheo esce esco, sì, sì. No, quello sì, però voglio sapere, cioè, con lo schianto è semplicemente attacco, come io potrei tirare una spadata, o c'è anche la cosa che apre la porta se uno si sposta da lì e non la tiene più? È che lo schianto è che la porta viene distrutta, quindi una volta che viene frantumata è praticamente come se non ci fosse. Ok, quello ok. Quello però che volevi chiedere questa porta, quindi per me potrebbe ancora reggerlo un colpo, non lo so. Un colpo sì, due no. Il punto è che è una cosa meccanica, lo schianto vale anche come azione che spinge e apre la porta, o è semplicemente l'attacco e quindi al massimo distrugge la porta? Distrugge la porta, ma che differenza allora c'è tra l'altro? Perché se la apriva... distrugge la porta e basta finché ci sei tu a tenerla. Nel momento in cui ti sposti si apre anche, chiaramente, quando arriva lo schianto. Allora sto lì e la tengo chiusa. No, delle due togliti, così salviamo la porta, no? Non hai nessuna garanzia che tu riesca a salvare la porta. No, perché lui comunque lo schianto lo fa. Esatto. Sì. Però posso fare il pignolo, in teoria non dovresti farlo perché hai preparato l'azione. Pure. È entrato? No, un attimo, stiamo... mi sta chiamando una cosa. Sì, sì, no, però che credevo a livello di regole, se tu hai detto quando Sceo si muove mi muovo anch'io, in teoria, cioè non puoi più scegliere, sì. Credo. No, può scegliere nel momento in cui avviene l'avvenimento, il fatto posso può dire ok, lo faccio oppure no, non lo faccio. Ah, ok, ah, si può, ah, non pensavo fosse automatico. Sì, sì. Quindi se tu sei ancora lì, arriva lo schianto, okay, la porta si rompe, ma come dici tu non si apre. Se invece te ne vai quando se ne va Garrosh, anche se lo schianto fa zero danni, per dire, la porta si apre perché non c'è nessuno più a tenerla. Allora facciamo così. Cioè, ma vuol dire che se la porta si apre, se te ne vai lo stesso. Non è che sei libero di scappare. Eh? Quando si distrugge la porta c'è il golem lì, non è che puoi scappare liberamente. Dovrei essere libero di scappare, cioè, nel senso... Ti dà un bel colpone? No, dipende che porta. Allora, però, cioè... Allora, o lo schianto è da Ro e quindi è solo un attacco, quindi la porta non la apre, oppure il golem ha dato queste cose e poi lui ha finito, lui non si aspetta neanche che ci sia, non sa, e io posso muovermi dopo. Ah, come reazione cioè, dopo che si apre la porta? Sono ancora i detriti in mezzo della porta. Cioè, il golem l'ha rotta, ma dovrà scavalcarli. Cioè, se vogliamo fare una cosa nella tua... se vogliamo fare da Ro, allora lo schianto però non me la apre la porta, io mi sposto prima. Cioè, mi piace più fare la narrativa che io sto lì a tenere la porta. Se tu stai lì a tenere la porta, la porta non si apre. Non si apre, si rompe, quando si rompe, a meno che il golem non la rompa attacco, allora ne un altro, magari mi vedi e mi attacca, però poi ha finito e io me ne vado con i detriti, sono tutti i detriti in mezzo. Sì, ma lui quello che ti chiedeva è... Ma secondo me non ti conviene, Giulio. Ma la domanda di Marco era, poi tu sei nell'area del golem e tipo, rischi un attacco d'opportunità, quello che dico io è no, non è detto, dipende che portata il golem. No, il punto è questo. Comunque in generale ti vede scappare. Così non è narrativa e allora io me ne vado prima, però allora l'attacco non apre la porta perché è uno schianto, come se io dessi una spadata e quindi non mi apre anche la porta. Se te ne vai prima, lo schianto la apre, no, la porta. Sì, Catta, il punto è, io capisco la cosa portata. Il mio punto è che se facciamo una cosa narrativa non ha molto senso, perché in questo momento non siamo in combattimento, non stiamo facendo una cosa esattamente, okay, come dire, codificata. Ma scusami Giulio... Perché io sto lì a tenere una porta e un golem che cerca di entrare. Giulio, ma... perché di rapportare tutto non ha molto senso. Ma, se facciamo invece una cosa super precisa, super raw, allora me ne vado prima e vabbè, la porta si apre e me ne vado prima. Cioè, non avrebbe senso che la porta si apre, perché è come se io dessi una spadata all'attacco. Se io do una spadata a una porta, anche se quella non è chiusa, quella non si apre. Cioè, può essere, se non c'è una descrizione, in teoria io attacco la porta. Ma lui sta attaccando la porta. È vero. Questa, infatti, è una, come dire... è una conseguenza che determino io dal fatto che un pugno di un golem è assimilabile a un colpo di un ariete, e un colpo di un ariete, okay, quando colpisce la apre la porta. È una cosa narrativa, come narrativa il golem che apre la porta, sfonda la porta, e quando io vedo che la porta si rompe me ne vado, senza che ci siano attacchi di opportunità o cose, anche perché sono i tritti di mezzo. Il discorso è che se dai una spadata puoi tagliare la porta, la puoi rovinare fino a romperla. Se gli dai esatto, o si sfonda la porta oppure si apre prima, no, cioè, a prescindere, capisci, dal fatto che tu prenda danni o meno, cioè tu comunque sei lì, cioè lui comunque ti vede, non può non vederti. Ma stiamo facendo una cosa inutile su una cosa, a me interessava sapere se la giochiamo narrativa o se la giochiamo dungeon. Io ti dico, la giochiamo narrativa, quindi tu puoi tenere la porta chiusa, punto. Ok. Tu, Giulio, posso chiederti una cosa? Perché ha più senso narrativamente che se io vi devo far scappare tengo la cazzo di porta chiusa. Sì, sì, sì, no, ha senso quello. Ma che stavo facendo. Tu, Giulio, che vantaggio hai nel momento in cui Sceo è scappato a rimanere lì? Scusa. per tenere la porta chiusa, evitare che lui entri subito. Io non so quanto la porta regga. Cioè, adesso però catta nel momento in cui lui, nel momento in cui lui tanto ce l'abbiamo. Perché se la porta regge, io ho tutto il tempo di andarmene via e poi lui dovrà fare degli altri colpi. Ma se invece me ne vado subito, lui entra subito e mi vede. Perché io non riesco a uscire prima, con un solo movimento di azione. 30 riesce piedi. A scappare in una sola azione, quindi tanto vale che dice questo turno tengo la porta e poi dopo col turno completo, sperando che la porta abbia retto, me ne vado via. Ha senso. O in ogni caso me ne vado via. Boh, non lo so, secondo me conveniva che andassi via tutti in generale, però... Vabbè, ci sta che l'abbia giocata così. Vabbè. Ok. Il primo schianto si infrange contro la porta. La porta viene danneggiata, ma non si rompe. Arriva il secondo schianto. Attenzione. Ok. La porta si rompe, ma non viene danneggiata. No, sì. Esatto. Col secondo pianto, col secondo schianto. Cosa? La porta viene frantumata. Va bene. Non è una spell per fare cambio con Vest? Purtroppo io non sono. Oh beh, dietro di lei dai. Vedete di il golem di Ambra. Salutiamo. Un po' sfocato. E salutiamo. È grande così. La mia condizione era che entrasse o che sfondasse la porta? Era... non mi ricordo. È grande così. Ah, cucciolino. Rotolo di prima. Ah, ce l'ho dal vivo, catta. Ah, oui, è vero. Figo. Zanubi. Ok. No, questo è... Ra. Quindi... sfortuna lancia l'incantesimo e tu te ne vai, giusto? Questo è Anubi. Sì. Ho anche Horus. Questo è Horus. È anche una mummia vera? No, li ho finiti. Peccato. Ho solo Anubi, Horus e Ra. Presi tutti in Egitto. A parte Ambra che salutiamo e che ci ha commentato facendo presente che il golem di Ambra sono effettivamente migliori, c'è anche Warning PNG il Migo do Metaforando che ci risponde xd. Momento social di Metz, bellissimo. Ragazzi, abbiamo Warning PNG il Migo do Metaforando che ci dice xd. Grande. Okay. Grande. XD anche a te. Ma sei diventato social, Vest? Eh no, perché mi appaiono tutti in un botto i commenti adesso. E quindi chi ha vinto? Non mi ricordo che incantesimo lancia sfortuna. Fantasma. Allora, Phantasmal Force. L'ho linkato nella chat, in Dadi. Vedo solo Aberration 2. Ah no, su Discord l'hai messo. Sayuga, Bamogo e Amadou Zaza hanno iniziato a seguire Tycoons and Dragons. Grande, li salutiamo. Clienti diversi. Ok. Purtroppo su Africa subsahariana, mi sa. Questo incantesimo non ha effetto su non morti e costrutti. Ok. Datemi un'iniziativa. Non utilizziamo quelle di prima? Ah, ok, va bene. Pensavo le voleste ritirare. Per vedere chi agisce per prima. Appunto, stiamo correndo via. Dipende quanto è veloce lui. Bardistron. Sì. Beh, non c'è. Non ha la stessa iniziativa, attaccato dopo Garrosh, quindi... Dipende se lo ha attaccato quando stava lui o più ha ritardato. Ha ritardato che non si allontanasse. Ah, Bardistran non c'è, dove è finito? Bardistran! Ha detto che usciva dalla stanza, no? Mm-hmm. Sì. Hai ragione. Effettivamente. Vabbè, ci allontaniamo più velocemente possibile. Cioè, se nel frattempo, non... sfortuna, cosa fai? Ma che sfortuna, lontano con corpo a corpo, visto che esatto. Prima andiamo, cioè, no, resta a lanciare un incantesimo, ma è un golem, sarà probabilmente immune alla magia. No, sono un warlock, non ne so questi dettagli, Marco. Bisogna fare un po' di metagame a un certo punto. Scappo. Beh, in realtà non sapeva se fosse un golem, questo non l'abbiamo sempre dato per scontato senza mai averne la certezza, però. Una volta che l'abbiamo visto, però, la certezza, diciamo, si concretizza. Però lui ha preparato l'azione dicendo qualunque cosa entra faccio quell'azione, per cui ci stava distinto di farla. Sta. Non è troppo esagerato. Chiaro, come metagame lo sapevamo. Che... Allora, tanto direi che non facciamo niente per questo turno se non uscire e vedere cosa fa il... cercare di capire cosa fa il golem, direi. Golem, sa com'è, com'è giustificata questa cosa? A Giulio riesce a scappare senza prendere botte? Vediamo, allora. Vediamo come posso fare dei danni a uno dei miei figli. C'è già la Miki, è mezzanotte? No, manca mezzanotte. Ti salutano. Ciao. Ti risaluto. Eccolo Bardistran. Cosa fai in questo turno, Bardistran? Scappo? No, cosa sta succedendo? Bevi il tè. Tu in teoria eri il primo. Nel frattempo la sfortuna ha detto che scappa anche lui. Ma non ha fatto l'incantesimo? Sì, sì, ed è fallito. E noi in realtà siamo già andati, quindi io non vedo neanche un cazzo, sento lo schianto e basta, immagino. Perché la gente non ascolta mai il guerriero. Ok. No, no sì, cioè tu appunto sei arrivato alla fine del turno, del tunnel, il turno precedente, e quindi adesso puoi per decidere di continuare ad andare dritto. Ma tutto qua. Io... vado un po' più avanti, ma è inutile che scappi di 1000 chilometri in realtà. Ok. Sbaglio? Non lo so. Anch'io. Rimango lì. Ecco, lì va bene. Allora, il golem... ci passa il golem lì? No, il golem è ancora di là. Ad occhio e croce effettivamente potrebbe far fatica a passare per quel pertugio, essendo lui di taglia grande. Ma all'improvviso un paladrago? Ah no. Esatto. E il golem protende la sua mano verso il guerriero in fuga. E... vuole accarezzarlo. Senti... Protende, non protende. Oddio, che paura! Ho detto protende. No. Cosa ho detto? Partendo? Vabbè. Torna indietro nella diretta. Non importa. Abbiamo le prove. Esatto. Forse il golem è innamorato e pretende la mano di Giulio. Potrebbe esatto. Essere una svolta. Infatti negare, Giulio... Negare livelli. Togliere armi. Atanas sente le sue membra che si intorpidiscono e deve resistere un effetto. Oh, cazzo. Con un tiro salvezza sulla saggezza. E tutto questo per averla fatta narrativa? No, in ogni modo, in qualsiasi modo lo fai. Che pezzo di merda, guarda, te lo facciamo narrativa, Giulio. 15. Occhiolino, occhiolino. 15. Fallito, mi sa. Sì. E ora ti narrerò di come muori. Allora, sei... Porca... riuscito a vivere. Sei inflitto dall'incantesimo di lentezza. La tua velocità è dimezzata, non puoi usare reazioni e non puoi fare più di un attacco nel tuo turno. Maledetta narrativa! Inoltre, il bersaglio può prendere, può fare o un'azione o un'azione bonus, o ma non entrambe. O insultare il buster. Quello comunque. Faccio un'azione di movimento e faccio un'altra azione di movimento. No. No, qui si è dovuto pensare. Aspetta. No, dopo a metà della velocità entrambe, però. Si muoverà anche lui, poverino. Poverino, Non lo so, perché normalmente fa okay. L'azione di movimento doppia perché usa invece dell'altra fa il movimento, no? Ora tocca a te, Atanas. Cos'è? Disingaggio movimento. Sì. Arrivi fino a lì, sì. Sti cazzi. Beh, se sei dentro lui non passa, posto. Lo hai detto, adesso vediamo. Beh, dai, non ci può passare. Senti messo. No, aspetta, vediamo cosa posso fare io. Non può Garrosh. Puoi spingere Giulio indietro. No, no, aspetta, ce l'ho. Garrosh... Niente, scusa, potete venirmi a tirare più avanti in teoria. In teoria. Vabbè, io sono lì comunque, rimango dove sono e guardo la situazione. E guardi Giulio morire. Coglione. No, beh, sto lì, no, non possiamo fare molto. Lì. Io sono Garrosh, fatelo passare. E che stavo cercando di fare il giro, però... Aspetta, lo vedo, vedo il golem. No, non vedi il golem da dove sei. Vedi Atanas che si è infilato nel pertugio. Ok, aspetta. Old person. Cazzo fa? Non l'ho mai usato. 60 piedi. Ti dico già che il golem non è una person. Non è un umanoide? Direi proprio di no. Direi che il golem sono solo una picchiata. È un costrutto e quindi... Ah, io posso rifare però il tiro salvezza alla fine di ogni mio turno. Sì, sì. Cioè, sempre che ci arrivi non cambiare. Il mio turno è finito, io mi sono mosso. No, sempre che ci arrivi alla fine. Ah, di questo diceva. Sì. Ogni mio turno. Vabbè, niente, aspetto che arrivi. 18. Aspetta, arrivo. Di solito no, sì, la 18 uno in più a quello che fai. No, 18 passa, mi sa. Quindi posso morire non essendo più rallentato. Esatto. Sfortuna, cosa fai? Ok, io voglio utilizzare Silent Image per far apparire qui, in questo punto, l'immagine di un barbaro con la faccia molto pelosa, oleosa, che fa una pernacchia al golem e inizia a farti un modello, uno un modello di intimo molto bello, insomma, chiaro. E inizia ad urinare dentro al tempio. Mi piace. A Garrosh piace questo elemento. Okay. questo era sfortuna. Eccolo lì. Allora, vediamo. Silent image, silent image. Ok. Perfetto. Il golem gli passa sopra, calpestandolo e rivelandola quindi come immagine. Dopodiché si cerca di infilarsi nel pertugio e con uno slancio cerca di arrivare a colpire il povero Atanas. Il golem è pesantemente impedito, quindi riuscirà a fare solo un attacco con svantaggio. Direi che 16 ti colpisce. Direi che 16 ti colpisce. Ma 19 e io direi lo stesso. Vendicati, hai vantaggio a colpire. Tocca a me, vado via. Blu, blu, blu. Molto bene. Vado il golem, non il braccio per aiutarlo ad uscire, poi hey! Il golem non sembra inseguirvi. Cominciate però a sentire. Cominciate a sentire dei pesanti colpi dalla sua parte, provenire dalla sua parte. Cioè? Contro forse le pareti. Apre lo spazio. Minchia, no, vabbè, non può farlo. Ma gli possiamo sparare da qua? In realtà sì. No, non riuscite a vedere fino in tutto in fondo, perché c'è una piccola curva che fa la gobba, quindi non c'è la linea di tiro pulita. Entrando un attimo dentro piano. E la silent image come l'avrebbe fatta esattamente? La silent image ho letto e non dice che devi farla in un punto che vedi. Dice fai in un punto entro la gittata che è 60 piedi. Che quindi... cazzo di seghe si è fatta a vederla lì adesso questa cosa? No, nessuna, semplicemente ho letto quello che c'era scritto, nulla nessuna, di più. No, solo un attimo che con troppi fazzoletti sporchi devo mettere da qualche parte. Le seghe me le sarei fatte se c'era scritto lo fai in un punto che vedi, e quindi il povero sfortuna avrebbe sprecato anche questo incantesimo. E invece è andato tutto perfettamente liscio. Per catta. Sì, esatto. No, per voi vabbè, non è cambiato moltissimo. Il golem ignora quella merda, gli sputa addosso, ci caga. No, non l'ha ignorata. Entra però dentro il tunnel, prende il funghetto della velocità, uccide Giulio, la stellina di Super Mario. No, però aveva abbastanza movimento per comunque arrivare dove voleva. Vabbè, strano che non abbia una stella adatta a dimensioni che lo rende più piccolo per passare. È vero, peccato. È vero. Comunque sì, dai, ci sono le ultime, c'è il tempo per l'ultimo colpo di scena. Facciamo un giro e gli speriamo dall'altra parte. È quello che pensavo anch'io, però poi lui ci vede. Cioè, torniamo di qua. Bene. Siete lì a pensare cosa fare, cosa non fare, quando dalle nubi... Esatto. Oh, il vedete una figura che si avvicina dalle... che spunta dalle nubi. Dalle nubi? No, arriva la mia faccia. Il primo che... che vedete è... perché non ti puoi aprire? In un altro modo. Così dovreste vederlo. Si vede, sì. Ma non lo cazzo è quello? Non me lo ricordo. perché effettivamente potrebbero essere passati più o meno 3 anni e 2 ondate di pandemiche. Forse quindi è Bayern veramente? No, no, non c'era ancora la pandemia, no, non è Bayern. Però Bayern lui l'ha conosciuto. Ah sì? Questo chi è? Il fratello di Rina, che però è morto. Esatto. Boia. Come cazzo hai fatto? Ismark il minore, che voi avevate abbandonato. Quella scena bellissima che adesso mi è tornata in mente, in cui stavate scappando. Era Vardis che aveva detto salt, sì, il cavallo di Rina si stava affaticando. E abbiamo convinto lui a saltare da un cavallo all'altro. No, era Irina che avete convinto. Irina, solo che Irina ha fallito e quindi lui si è fermato per andare contro il nemico. È vero, è vero. Io che c'entravo. Irina salta. Si è schiantato nel fango e lui si è gettato in pasto ai lupi per salvarlo. Farci scappare in groppa, se ricordo bene, dei cavalli, dei montoni, si sacrificasse. Io ricordo, no, lui sacrificasse. C'era anche le capre giganti lì, ma lui non lo sapeva. È vero, le capre. Ma quindi noi lo sapevamo. Ah beh, è morto, non morto. Ah, okay. Ma tanto qui non muore nessuno, veramente. Bravo. Tranne voi. E infatti. No, adesso in realtà è abbastanza resistente, è già 2 volte che ci va vicino. E infatti, come finisci di pensare a queste parole, tranne dietro di lui compaiono. Come? Ah, tranne Adene. Vedi arrivare Adene? No, scherzo. Ne vediamo sto qua. Ma che cazzo è? Poi c'è la scena di Irina che cade dal cavallo. Però ci starebbe di vedere Adene in effetti. Dalle nuvole lo vediamo arrivare? No, camminando, cioè spunta dalle nubi che sono comunque dalla nebbia. Dalla sì. Avevo capito che volasse. No, anch'io, per questo ho detto non mi faccio. Lui non vola. Ah, ma che sfigato, però, non vola neanche. Però... Il drago che ci trasforma. Esatto. Non ho un'immagine adatta per lui, perché l'ultima volta che l'avete visto era così. Apri in un'altra scheda. Sarà un cumulo di ossa. Comunque dai, avete un'inspiration che si è ricordato chi è questo. Ce la meri. Ce l'ho ancora. Ce l'ho. Dalla conferenza. Ma io mi chiedo, questi sono di lui... i rinforzi oppure della gente nostra, che sarà la nostra alleata, che ora si vuole vendicare di lui? Un'ottima domanda. E dietro di lui non vedete un'altra faccia conosciuta, è Kratos, ma solo la faccia. Effettivamente l'ascia la può ricordare. E... No, in che senso solo la faccia? Una testa, o... nel senso che c'è una faccia che fluttua, il vostro no, caro amico è un teschio. Noi vediamo le facce o proprio le persone? Non ho capito. No, di questo in particolare che spunta dietro, seguendo il caro Izek, era niente poco di meno. Era Izek, scusa, no, che l'altro, questo è Colin, Ismark dietro di lui. Vedete spuntare Izek. Non l'avevate ucciso? Sì, esatto. Infatti non è più tutti così, per questo... Cioè, tutti i PNG che abbiamo incontrato sono morti. Se facciamo i conti. Se c'è Izek potrebbe non essere nostro amico. E di lui riconoscete infatti solo a malapena i lineamenti. Perché notate che, se vi ricordate, lui aveva un braccio demoniaco. Sì. Sì, adesso è tutto demone. Adesso è tutto demone. Il suo braccio praticamente ha inglobato il resto del corpo. Ah, quindi è tutto, quindi un enorme braccio. Un braccio con una faccia. È un braccio con una faccia, esatto. E cammina zoppicando in questo modo. Esatto. Vabbè, è gestibile, sai, così è gestibile. Che schifo. No, è un alleato. Abbiamo gli alleati questi, abbiamo, non è che... Ah, amici, è quello che passa il convento. È quello, cioè. Non so se è un alleato. Vediamo il terzo. Per darvi un'idea del corpo che ha... Oh, cazzo. È una roba più o meno del genere. Quindi non è solo un braccio. Non anche è solo cioè, il braccio. Ali. Sarebbe stato anche la coda e le ali. Comunque. Beh, come alleato mi piacerebbe. Ok. Poi chi c'è? Mm-hmm. Poi chi c'è? Ditemelo voi. Non so, allora, manca Strad. No, Strad non c'è. O Reed. Sì, arriva. Il bambino. Ne arriva, non arriva una Irina, ne arrivano due. Allora, nel senso siamo e sangue freddo. Ah no, arriva allora. Irina, arriva il golem di Irina. Esatto, bravo. Inspiration. Quella finta. Basilica. Ah sì, quello che aveva fatto il coso, il Labat. Finta Irina. Beh, quindi a sto punto arriva anche Kevin e arriva... E arriva il caro. Il tuo amico, il miglior amico. Entrambi i tuoi migliori amici. Cioè, va Richter? No, va Richter no. Arriva Izek e... Quello è il nostro alleato, non lo vedremo più. Quello è il vostro alleato. Arriva Kevin e il bambino Angelo. Ilia. Noi solo la gente incazzata con noi li incontriamo adesso. No, aspetta però. No, in realtà con Irina avevamo l'accordo di vederci qua, quindi in teoria. È vero, è vero, è vero. Infatti quelli ci stanno. Utile. È sto Izek che... Izek è una sorpresa. Beh, anche Ismark è abbastanza una sorpresa. Potrebbe essere morto. E cioè, in realtà anche l'altro il golem di Irina che era scappata per Lemon. Beh, sì, anche il golem di Irina era scappata nelle foreste fuori da Kretzk. Noi sapevamo lei... solo che il bambino Angelo... Kevin e Irina erano assieme, che erano in una grotta e che dovevamo trovarli nelle montagne. Grandi. Insieme a loro hanno evidentemente fatto altri incontri lungo la strada. Arrivano le aquile, no? Più o meno. Quindi questi sono amici vostri, vero? Beh, tu qualcuno lo conosci. Amici, spesso abusiamo. Molto spesso. È complicato, diciamo. Alcuni più esatto. Altri. Diciamo che la metà l'abbiamo uccisa in qualche modo. Una visione. Però non ci siamo riusciti. Però uccisi per salvare. E all'altra metà abbiamo promesso di ucciderli. No, non è vero, dai. Ad alcuni abbiamo solo promesso di darle in spose a Strad. Non le abbiamo. Io ho promesso di uccidere sia Kevin che il bambino Angelo. Izek e abbiamo ucciso e il fratello di Irina è morto per causa nostra più o meno. Beh, non è vero in realtà, dai, non è più o meno grandi linee. Noi eravamo presenti alla sua morte, questo non... No, se non avesse convinto Irina a saltare dal cavallo in corsa. Io? Sì. Sì. Io l'ho convinta? Sì, sì. Eri sì, papacchista con Irina in quel periodo. Posso fare un tiro per se sono ostili? Di fatto, l'unica persona che non abbiamo ucciso, giurato di uccidere o comunque provocato in qualche modo la morte è Irina, ma praticamente tutti noi, a parte Vez, voleva darla a Strad. Sì. Casimir e Ismark. Beh, vabbè, Kevin non l'abbiamo mai tutto. Ucciso. Tu lo volevi, no, per ora. Ci ha abbandonato. Vabbè, ma io dico male, non lo sa. Io dico a parte Ismark, ma sei tu. Esatto, Ismark. Noti che è un vestito incredibilmente leggero ed è un po' più peloso di quello che. Ah no, lupo mannaro. È un po' più peloso di quello che ti ricordavi. I suoi vestiti sono lacerati e il suo aspetto, diciamo, è più robusto e un po' più imbruttito. Però la volta che l'abbiamo visto era circondato da lupi mannari. Io ho comunque una una postilla da fare, perché anch'io ho ancora la maglia. Cos'hai tu? Giulio? È vero. Io sono ancora un licantropo, in teoria. Non è mai uscita ancora la luna. Però non sono, nessuno mi ha mai guarito dalla... Qualcuno te l'aveva... Mi ricorda l'altra campagna. No, qualcuno ti aveva guarito. No, perché accatta... no, non c'era più. Però... E usciva la luna. L'ha fatto. Forse addirittura Vardistran lo ha fatto. No, no, Katta, e tu no, te l'hai giocata col fatto che non si vede mai la luna. Ne ha stati i paladini. Bravo. Ah, forse. Forse era stato l'ordine del drago d'argento. Forse, però... Andremo a rivederci ore e ore di... Però sì, io mi ricordavo che infatti mi dispiaceva perché perché mi ero segnato che si era tolto la maledizione della licantropia da Giulio. Se l'ha altrimenti... fatto è stato l'ordine del drago d'argento, perché nessun altro. Qualcuno l'aveva fatto, mi ricordavo questa cosa con mio sommo dispiacere. Non eri tipo andato nel tempio, ti eri inginocchiato col tizio? Hai avuto una sessione uno ad uno con il consigliere del tizio, no? Assolutamente no. È Vez che faceva i tet a tet. Il tet a tet che ha ricevuto. No, ma lui con l'altro, con il supremo. Con lo spadone. Sì. Ma dopo, visto che il tizio se n'è andato, ordina sostanzialmente, quindi le attenzioni del secondo comando, come dire, migrano da un cadavere a Vez. Chi controlla lo spadone controlla. Chi controlla lo spadone, appunto. Bene, comunque, Vardistran, tu avevi detto al buon Izek? Ismark. No, Ismark, ho fatto glissato. Li confonderò per sempre, porca troia. Izek ha detto muori. Ah, il buon Izek ti fa... Adesso è il tuo turno, stronzo! No, dico, Ismark, sei tu? Oh mio Dio, ma cosa ti è successo? Sembri quasi scemo. Lui ti fa, come dire, un cenno di saluto e vedi che è tutto curvo, imbruttito e un po' incarognito. E dice, Vardistran. Questa è cattiva vita con te. Beh, perché ce la dovrebbe avere? No, non ce l'ha, lui è così, non ce l'ha, non è così proprio perché nei tuoi confronti. Noti semplicemente questa differenza rispetto a prima, quando era insomma giovane e nobile e con un portamento, ora è più bestiale come atteggiamento tutto qui, ma non perché, non nei tuoi confronti in particolare. Amici, cosa siete qui? E come mai questa creatura... Come mai questa creatura è con voi? Il mio personaggio è veramente... E questo indico Izek. Lui ti ringhia un pochino contro. E poi però vedi che Vasilka mette una mano sulla sua spalla e lui si tranquillizza. Allora okay, non voglio sapere cosa fanno nel tempo libero. Beh, ti ricordi appunto come... Qualcuno è mai entrato nella stanza di Izek? Sì, spalla, forse. Aveva tutte le bambole di Rin. Adesso ha una bambola di Rin. Versione. Meglio di così, lui è qui. Tutto a posto, insomma. È il più fortunato di tutti. Questa puntata sta virando improvvisamente su... Beh, l'ora è tarda. Esatto, arriviamo verso la conclusione, siamo in fascia protetta. E Irina viene avanti e prende la parola e ti dice: Vardistran, il mio cuore è... Così, insulti a caso, ti prego. Il mio cuore gioisce nel vederti ancora in salute, tipo mezzo poi, morto. E ti... che ironia! Non ha 4 punti per vita. ancora no, sui tuoi. In teoria sta strisciando. No, no, di più. Okay. 7. No. Ancora sulle tue spalle, ancora. Tipo 20 qualcosa. E dice no, 27 sono... punti ferita. È tornato il Giulio che arriva dopo. Non lo so, ho laggato un attimo. Sì, adesso sei tornato. Dice scommetto, sono sicura che siete stati voi a riaccendere il fuoco del Sacro Ordine. Grazie. Ha ridato speranza a molte persone. È così, anche se sembra che sia durato poco. Questo tempio sembra imprendibile. Ora perdonami a proposito di questo. Il contenuto, quel ciò che giace dentro quelle antiche rocce. Vale. È un potere. Vale, antiche rocce, noi non sappiamo niente. È un potere con il quale non si può andare, non si può andare mai per la leggera, non si può mai sottovalutare. Vi prego, seguiteci e venite sotto la nostra custodia senza porre resistenza. In che senso della cosa custodia? Cioè, aspetta. Stiamo facendo tutto questo per lei e lei ci prende in custodia. No, aspetta, calma. Fermi tutti. Cioè, la portiamo da strada seduta stante. Barbaro, codico, malvagio, attivato. Per la prima volta. Potete è nove livelli che ci sbattiamo per questa Irina e questa ci prende in custodia. Beh, sì, se stiamo andando al castello di Strati, seguiamo subito. Grazie. Se volete unirvi a noi per affrontare l'insidio, siete benvenuti, per quanto alcuni di voi hanno un conto in sospeso con me. Casimir, non dicevi forse che qui si trovava la conoscenza per sconfiggere Strad? E guardo Casimir. Casimir vi guarda e dice, ed è assolutamente vero, come credo voi abbiate avuto un assaggio di quello che c'è lì dentro. O sbaglio, e vi squadra soprattutto la faccia pelosa di Garra. C'è anche chi ha fatto tipo... è vero, però non è qua per fortuna. Non è qui però. Però sì. Appunto gli basta squadrare Garrosh e tipo fa si protende un pochino verso di lui, annusa un po', fa e si ritrae. È bello, no, ma era così anche prima. Cosa? Era così anche prima, cioè l'odore è uguale. Non è che qui stiamo tutti in un hotel 4 stelle e ci facciamo la doccia. No, è che adesso con le palle di fuoco si è aggiunto anche quell'odore proprio di, come dire, di barbecue di strinato, esatto. Cazzo, l'altro giorno sul fornello mi sono strinato dei peli veramente. No! Fa una puttana. È vero, anche a me è successo un pochino qualche giorno. È un odore veramente orrendo. Comunque. Sì, dice... Per favore, ascoltate... le parole di Irina e non costringeteci ad usare la forza. Vediamo, ma che cazzo c'è? Vabbè, possiamo scagliare il gol incontro in qualche modo. Possiamo fare a patti col gol. È più simpatico. E dove ci vorreste portare? Ora entreremo nel tempio. Vabbè, siamo appena usciti aspettando che un gol mi andasse per ritornare dentro, cioè anche noi stavamo entrando, anzi siamo già entrati. È quello il problema. Capite bene che non possiamo rischiare che qualcuno di voi, o per quanto ne sappiamo, tutti voi, siate già stati corrotti dal tempio. E questo potrebbe compromettere la nostra missione. Ciò che è morto non può morire. Appunto. quindi ciò che è già corrotto non può essere ulteriormente corrotto. E quindi dove sono le risposte per sconfiggere Strahd? Sono, si celano nella zona più profonda. Questo è Casimir che parla. A me è sempre stata preclusa perché è troppo pericolosa. Ma adesso finalmente il caso ha voluto che trovassi tutte queste anime perse e che tutte avessero in comune il loro odio per il Signore Oscuro. Super squadra. Allora. Dovevate uccidere più gente. Quindi a questo punto. Ah, è vero, non c'è l'as, tra l'altro. No, non c'è l'as. Io mi apro il mio libro di segreti, mi avvicino a Casimir e gli chiedo: ok, quindi fatto che sei già stato qui, mi potresti dire un po' cos'altro si trova? Un po' questi dettagli su questi sarcofagi d'Ambrat, cosa ne sai? So solo che in quelli vengono racchiusi oscuri poteri con i quali è meglio andare molto cauti. Quali poteri? Comunque, in verità il personaggio di Laz è diventato il cattivo principale. Lui è Strahd con il medaglione da un pezzo. Mi ha preso il posto. Quindi è diventato lui, il nuovo signor oscuro. Infatti loro parlano di Laz, non di Strahd. Esatto. Però sarebbe un plot twist notevole. Vero. Tu Casimir l'hai già incontrato, sì. Quando siete entrati nella città. Ti dice... sfortuna, adesso... io so di per certo di una sola di queste entità che alberga nel tempio ed è quella per cui sono venuto qui. E probabilmente avete avuto modo di vedere più cose di quelle che riuscì a vedere io ai suoi tempi quando venni qui da solo. Perché i livelli più profondi mi sono stati preclusi dalle oscure e malvagie creature che abitano questo luogo e che a giudicare dal vostro aspetto avete incontrato pure voi. Ora però vi chiedo, capirete appunto la nostra condizione. E immagino che a parti inverse non fareste diversamente. Purtroppo non possiamo essere sicuri che voi non vi rivoltiate contro di noi. Io guardo, è un po' rinunciato a parlarci così. Come non potete essere sicuri? Dovete essere sicuri che noi ci rivolteremo. Esatto, sì. E quindi, dato che questa potrebbe essere l'unica occasione nella nostra vita per riuscire a cambiare il nostro destino, e dopo 70 non possiamo rischiare. Proviamo a salvare questa cazzo di regione di merda. Questi arrivano e non mi fido più. Sì, ok, possiamo entrare nel tempio assieme, noi abbiamo bisogno di un po' di riposo prima di tornare dentro. Circa 8 ore. No, sì, non ho capito, cioè ci vogliono bloccare da qualche parte o vogliono che entriamo con loro? Questo non lo sanno ancora perché non hanno ancora visto dentro e quindi anche loro... non sanno bene che cosa fare, potete intuire. Però il punto è, non vi possono, tra virgolette, lasciare, non vi possono lasciare, come dire, liberi di potenzialmente attaccarli alle spalle quando loro sono magari dentro in pericolo, no, combattendo qualcos'altro. Abbiamo bisogno gli uni degli altri, quindi... Ma loro ti stanno dicendo che non si possono fidare di voi. Perché non sanno se siamo stati corrotti dal... Oh, basta, però, attaccate la destra. Abbiamo dateci... che cosa dobbiamo dimostrare di più? Dateci... Abbiamo ucciso una moglie di strada, quasi ucciso un'altra. Abbiamo scontrato di due volte. Avete un po' rotto il cazzo, cioè, nel senso, con tutto il rispetto. Adesso c'è un golem, siamo scappati perché un golem... Che cosa vogliono che facciamo, scusa, non ho capito ancora. Vedi che soppesano anche loro la situazione, nel senso che effettivamente non sanno bene che cosa aspettarsi da voi e stanno cercando, come dire, di non creare i presupposti di uno scontro. Sì, perché sanno quello che siete in grado di fare. Non c'è nessun presupposto. Noi entriamo insieme dentro al tempio, tu, Casimir, prima o poi ti prenderò, lo sai benissimo, ma lo farò vis a vis, cioè nel senso, non è che tu aspetti che il golem ti abbia quasi ucciso. È quello che... Anche quello che temono, nel senso che se loro vi permettono di entrare insieme a voi, poi voi potete avere al momento giusto la possibilità di farli fuori, e quello vogliono evitare. No, ma io dico, Casimir, non sai come mica ho provato a ucciderti in sordina, ti ho preso di lato, ti ho parlato, tu sei scappato come un codardo, ma va bene, cioè nel senso... Quando capiterà faccia a faccia, mica durante una battuta. Giulio, esatto, non hai migliorato la nostra posizione, grazie. Allora, capite il loro imbarazzo in questa situazione. Ok, signore, smettiamola con queste scaramucce. E ogni tanto tiro delle occhiate invece alla mia faccia. Poi, rega, tanto dico, è inutile. Voglio. Ok. Ma tanto è inutile ucciderli, tornano. Quindi. Allora, signori, smettiamolo che questo è inutile scaramucce. Questo, è proprio quello che vorrebbe il nostro nemico comune. Parliamo di strade, sì. C'è un po' di confusione sui nemici qua. Che potrebbe... la divisione tra di noi è la sua arma più forte. Selvaggio, però, noi siamo qui tutti per lo stesso motivo, ed è vero, forse alcuni di noi hanno avuto atteggiamenti ambigui nel corso della loro presenza qui. D'altra parte, anche alcuni del vostro schieramento l'hanno avuta, ma non è tempo di giudizi. È tempo di trovare un'unità di intenti per raggiungere un obiettivo, quello di distruggere il Conte Strad una volta per tutte e riportare l'ordine e la serenità su Barovia. Ma poi e cambiare campagna vittima. E cambiare e smetterla con questa sofferenza, mi prego. Abbiamo riportato la luce dai paladini e oggi riporteremo anche in voi la luce della speranza. No, esatto, noi abbiamo la benedizione dei paladini. Come vedete, vengo a voi senza armi. Tipo, metto le mie armi per terra. Perché se le mie mani le metti per terra. Strad. Non ho paura di voi, perché so che nel vostro animo puro c'è la stessa voglia che c'è nel mio di sconfiggere Strad. Ma ora vi prego. Mi siedo un attimo in un angolo. Non combattiamo tra di noi, ma troviamo un'alleanza per la situazione. Casimir, io vedo che tu hai la conoscenza che ci serve per raggiungere gli obiettivi che si trovano all'interno del tempio. Vale come riposo lungo per noi, vero? Speriamo di sì. No. Il golem continua a rompere la pietra. Noi continuano i tonfi contro le pareti. Qui non è sicuro. Noi abbiamo sentite? Vagato un po' nel tempio. Abbiamo visto creature oscure, golem. La pace. un golem di ambra, quello che sentite tuttora che sta cercando la sua via. Voi conoscete un posto qui vicino al sicuro dove poterci riposare e pianificare? Non ci sono posti sicuri. Va bene. Qui vicino forse... e né tantomeno lì dentro. Allora in Barovia, a quanto pare. Allora forse dobbiamo sconfiggere il cone. Allora, se voi siete così sicuri, procediamo all'interno seguendo la via. Però forse un pianificare un pochino potrebbe esservi utile, perché noi un minimo di planimetrie le conosciamo a questo punto. Aspetta un secondo. Quante cose hai dato fuoco, Giulio? Non c'è molta cosa, è tutto di pietra, è difficile da fuoco alle cose. Forse se voi ci deste una mano a sconfiggere il golem che si è bloccato in questa stanza, forse dopo potremmo prenderci un attimo di pausa per pianificare. Però il resto. Siamo andati ai paladini prima di ricevere la benedizione. Tutta cosa figa, abbiamo bruciato mezza chiesa, cioè mezzo palazzo. No, però aspetta, ci sono dei punti dove potremmo fermarci, in verità. Aspetta, tipo, te lo sto per dire. Queste stanzine qua all'inizio segrete, se lui non è lì a pattugliarle. Quelle togli sul corridoio, sì. Sì, però in realtà avevamo battezzato quella stanza perché in quella stanza lì si riusciva a riposare, nelle altre Katta diceva che c'era un freddo nelle ossa terribile, una sensazione anche proprio una sensazione di malessere, sì, esatto, dall'atmosfera del tempio, mentre lì non si sentiva, si sentiva meno quantomeno. Vabbè, sì, quella stanza era appena sta spaccando tutto Giulio lì per uscire da là. La stanza era appena l'unica, come dire, tollerabile per fare un riposo lungo. Volevo vedere gli incantesimi, se magari aveva l'incantesimo che dicevo io. Io Casimir, intanto che loro chiacchierano, e invece è inutile. Ma non sto chiacchierando in realtà, cioè... No, sto scherzando. Voi avete detto, Vietz parla, è inutile, ma in realtà stavamo convincendo, cioè non è che tipo io metto lì, tipo, sì, bella, ciao. Cioè, non è proprio cambiato niente, vedo. Che al mio personaggio non gliene frega un cazzo, quindi... Ma te ne frega un cazzo, questi, se no ci comincia ad attaccare, vedrai che te ne frega. Rispondiamo, cioè... sì, certo. Se siamo venuti... Allora, il discorso è che la loro logica non sta in piedi. Per il mio personaggio, dico. Cioè, 65 sessioni che... Stiamo dalla loro parte, arrivano qui, vi prendiamo in custodia, non ci fidiamo. Ora sei malvagio in realtà, Sceo. Tu te proprio sei l'ultimo. Che... Esatto. Ma loro non lo sanno. Ma evidentemente neanche Sceo. In realtà io... No, ok. Te l'ho già spiegato, io non è che so di essere malvagio. Secondo me le mie azioni sono giuste. Agli occhi degli altri io sono malvagio. Ma mentre prima eri neutrale, adesso sei malvagio. Sì, però i miei occhi sono uguali a prima. Quindi vuoi il sangue, sì, di questi. Esatto. E loro, ha ragione, lo sospettano, dicono, non possiamo fidarci di voi. Ma io, i discorsi di prima, cioè, li ho fatti, nel senso, a Casimir gliel'ho detto proprio. Guarda che io non è che ti uccido di spalle, io quando vorrò ucciderti dirò, guarda, Diciamo che non è che sei proprio protenda a voler, come dire... E la mia infilarsi insieme a te. Posso fare un persuasion? Tu quindi, Vardistran, hai appoggiato per terra lo spadone e sei venuto insieme a loro, cioè ti sei avvicinato a loro, giusto? Sì, esatto, per fargli capire che ho tutte le migliori intenzioni. La terra si apre sotto il tuo spadone. Certo. Il verme. Spunta il verme. Siamo in Dune. Questa è Arrakis. Esatto. Il pianeta deserto. Nel frattempo, che è in contemporanea. Sì, vabbè, ti dico solo che vado a vedere la situazione del golem. Cioè, okay. Senza entrare, vedo se sta aprendo uno squarcio o meno. Vedi che piano piano il pertugio si sta ricoprendo di detriti che stanno crollando dal... No, forse sta chiudendo dal soffitto. E quindi ancora un po' di colpi e verrà franerà venendo otturato dai massi che cadono. Questo potrebbe essere male. O potrebbe anche essere bene, perché così non c'è più. No, no, ma è una via di fuga questa che sarebbe meglio tenerla aperta. E... allora, no, scusa, ancora... Vardistran. Intanto Vardistran che fa questa cosa, Irina è confortata e gli dice... si è persa la porta. E... dice grazie Vardistran, esatto. Grazie Vardistran, è ora di andare a letto, e, sapevo che potevo contare sulla tua comprensione e chiedo se anche i tuoi compagni possono fare lo stesso. Io ritorno contare su Vardistran. Noi contiamo sempre su Vardistran, la nostra guida spirituale. Detta ridendo. E dice, per favore, venite insieme a noi disarmati, in modo da che così possiamo fidarci di voi. Ma vai a diciamo che però se andiamo dentro disarmati poi moriamo anche noi in realtà, quindi il mio era per dire guarda che non ti faccio niente, però appunto e sei venuto da lei in segno, come dire, di buona volontà, così appunto vedi che dimostri che sei momento, però è chiaro che se poi mi dicono vieni così a farci da cavia dentro, gli dico che ragazzi no, questo non te lo... però no il gesto di andare verso di loro disarmati, chiedono anche a noi. Io dico... come faremo dentro ci penseremo alla prossima sessione. Non abbiamo le armi sguainate. Se mi chiedono poi appunto, di poggiare a terra, no? Sì, nel senso, le poggi a terra e poi ti sposti e vieni da loro, in modo che tu possa... E li abbracci. Così dimostri di essere, diciamo, innocuo, come ha fatto Vardistran. Giusto, è questo che hai fatto Vardistran? Sì. Non esiste che io appoggi le armi e le lasci lì. Io comunque dalla stazione del Golem gli dico... E si voltò verso i discepoli e disse: mettete a terra quelle cazzo di armi e rompete il cazzo, coglioni. Faccia. Io oltre... intanto allora indietro e dico intanto il Golem ha... Allora, la nostra via di fuga dal tempio, se siete venuti qui per aiutarci bene, se no potete tornare da dove siete venuti, intanto c'è fretta di entrare e risolvere la situazione. Forza, poi, ragazzi, siamo qui una missione, allora, o ci ha dato una mano, un piccolo gesto per il bene comune. Cioè, io non mi mostro ostile, ma non esiste che io abbandoni le armi. Allora, aspetta, fatemi scrivere la situazione per la prossima puntata. Quindi Vardistran appoggia lo spadone e si avvicina. Garrosh arriva e dice: la via è chiusa. È chiusa. questa è la via. No, poi glielo dico: se siete venuti qui per aiutarci bene, della lealtà quindi degli uni verso gli altri, ce ne facciamo poco. Dobbiamo risolvere la situazione. Entriamo. Garrosh e Atanas rifiutano di abbandonare le armi. Penso che qualunque persona sana di mente. E sfortuna, cosa fai? Beh, io tiro fuori il mio mini stocco utilissimo, il mio pugnale, li butto a terra e dico: per quel che vale, ok. Ora basta con le ciance, andiamo. Casimir ti dice: il libro, per favore. Ah! No, cosa? andiamo. Casimir ripete più lentamente: il libro, per favore. Vuoi era un segnale che... vuoi forse privare un letterato del suo libro? Suo libro è il mio libro delle preghiere, perché dovrei lasciarlo? Cioè, mi dà conforto all'anima. Per il conforto, se vuoi, c'è un angelo in carne ed ossa qui. Non abbiamo tempo per queste sottigliezze. Sa che siamo qui, dobbiamo fare in fretta. Se no, dovreste preoccuparvi di ben altro che di noi. Cioè, sono come strada, arrivano e vogliono dettare le loro condizioni. Oh. Vero. Quindi, sfortuna, lasci lo stocco, ma ti rifiuti di consegnare il libro. Oh, datemi le armi magiche che avete. Date le armi e datemi gli oggetti. Affanculo. Scusa, perché non ho chiesto il simbolo sacro? Vogliono il mio libro. Ma che libro è, scusa? Quello degli antichi segreti. Vorrei che per, mi fermaste un attimo e guardate dietro cazzo. Ma io non vedo dietro di me, c'è della fretta dietro cazzo. Aiuto! Attento cazzo. Va bene. Credo che detti queste vedremo cosa succederà. Vabbè, poi la prossima puntata tipo arriverà un tirannosauro gigante. Esatto. La cosa bella è la testa di Irina, riequilibriamo e che confermerà il fatto che hanno ragione a fare così. Sai cosa sarà, Vez? Che arriverà Arci, cioè, quindi avete fatto il fight incredibile, io non c'ero, adesso che ci sono dobbiamo parlare con sti qua. Esatto, così. Sarà esattamente così. Va bene, no, in realtà io credo che il libro degli antichi segreti possa evocarlo quando mi pare, quindi lo posso anche lasciare giù. Ok, quindi lo lasci e ti avvicini a loro. Devo vedere... Cioè, cos'è, sì, tipo il martello di Thor che ti torna in mano? No, lo rievoca. Sì, credo che posso rievocarlo gratis come rituale. Tra l'altro, adesso non glielo dico, però non ha logica. Sì, sì, certo, appoggio l'arma qui, poi la riprendo in mano e due stanze dopo li ammazzo. Cioè, che gesto... Non vale un cazzo quel gesto. No, ma io adesso appena possibile che Kevin lucido nel sonno. Ah, ecco, nel senso. Io te l'ho detto, Kevin, ti ammazzerò davanti quando è tardi, te lo ci penseremo alla prossima puntata. No, ho capito. Finché si era tra persone civili le cose cazzo, cioè, tu sembra che tipo gli abbia detto tu devi morire. Secondo loro basta appoggiare un'arma per terra per dimostrare di essere non corrotti. Ma se un corrotto è anche intelligente, appoggia l'arma per terra, poi due stanze dopo ti accoltella la schiena. Allora non sei intelligente! Cioè, quello è preso. Io non so, infatti io non sono intelligente, chiaramente. No, e magari era semplicemente anche un po' per passare questo impasse, visto che combattere contro di loro mi sembra una gran idea. E quindi cioè, dovete scegliere un po' da che parte stare, secondo me, a sto punto. Ma non c'è una parte, siamo tutti dalla stessa parte, non c'è niente da dimostrare. Chi mi dice che loro non siano corrotti da strada e vengono qui a fare così? Ma no, perché io mi domanda di loro. Vez, è molto semplice. Arriva della gente che, per quanto in teoria alleata, non è gente che compagna di merenda, che mi dice lascia le armi. Sono un guerriero, col cavolo che lascio le armi. Cioè, non esiste. Diciamo che allora ragazzi, quello che dicono un gol, loro è un demone, un mannaro. No, cioè, ok, piano più però, malvagio adesso, di noi. Nel senso, allora, se udite al mio personaggio dà fastidio, io le armi non le poggio, non voglio, ho l'orgoglio per cui è ok. Se vi dite non ha senso che loro dicano che potremmo essere stati corrotti dal tempio. Non esageriamo, comunque va bene. Tu ragioni da giocatore, il mio personaggio non è che dice oh aspetta forse ha ragione, infatti questo ti dico, se tu mi dici il mio barbaro per cui per lui l'arma è importante, il mio guerriero per cui l'arma è importante, oppure io sono Giulio quindi mi dà fastidio Casimir, Irina, viva strada, porta strada. No. Piano. Io ho detto un altro discorso. I nostri personaggi non sono consapevoli di essere stati corrotti dal tempio. Ma io non sono stato corrotto. Non possono dire. No, prima. Tra l'altro, sì. Cioè, ok. Nel senso, non è che. Cioè, perché il discorso diverso è. No. Allora, se tu mi dici che il tuo personaggio per orgoglio, per eccetera, eccetera, non lo fa, ok. Se tu mi dici come giocatore, ma guarda, non ha senso che dicano che il tempio corrompe, eccetera, ti dico. Riguardati due episodi precedenti. Non ho detto questo. Ho detto che non. Cioè, che senso ha che noi ci fidiamo di loro ad occhi bendati? Ah no, vabbè, lì è una decisione. In realtà è tutta. Ma oddio, in realtà a parte Izek, che non si è mai ben capito. Che cosa hanno fatto questi mentre noi non li avevamo? Vabbè, una è Irina e se fosse corrotta da strada non sarebbe qua. In realtà Irina, Kevin, cioè sì. Casimir e l'Angelo siamo abbastanza sicuri. Esatto. Vabbè, ci penseremo alla prossima puntata. Catta la scena. Ok, e vai, ti avvicini anche a loro, stai dove sei. Poi quindi vai dove c'è all'orgoglio di un barbaro malvagio che dice sti cazzi. No, quello c'è, per cui... no, no, ma tu puoi fare quello che vuoi. Io dicevo che semplicemente inviato. Dire come giocatore non ha senso che questi facciano così. No, dico, ragazzi, esageriamo. No, come giocatore è ovvio. Cioè, bene. Nel senso. Ok, è ovvio. Detto questo... Buonanotte. Buonanotte, grazie per averci seguito. Episodio 65 della maledizione di Katta. Okay. Salutiamo Katta che ormai... è andato. C'è il coprifuoco, c'è il coprifuoco. Esatto, beh, esatto, esatto. È già stato abbastanza. Sì, sì, sì, l'abbiamo, sì. Assolutamente, l'abbiamo sforzato. E va bene, vi diamo appuntamento ai prossimi episodi con Umbra Imperi la prossima settimana o non abbiamo deciso? No, la maledizione di Kat. Ah, c'è un back to back. Due. Allora. Sì. Oh, magari con due sessioni di fila un live. Ah. Ehi, scherzone. Ehi. Comunque, a parte che vabbè, gli ultimi abbiamo... vedremo cosa quale sarà. Esatto, fallo anche tu. Grazie a Luca Lazzarini che ha partecipato oggi con noi. Non ha neanche dato troppo fastidio. Osservatore. È vero, non ha dato neanche troppo fastidio. Non ha fatto neanche troppe battute strane. Mi aspettavo nessuna battuta è tua, in effetti. Ne vuoi fare una per chiudere? No. Non vengono così in automatico. L'ansia da prestazione, esatto. Va sono bene. Studiate per quello che sono così belle. Ci vuole un po' di improvvisazione. Comunque, grazie per averci seguito. Continuate a fare su questi canali social. Lo fate perché dà fastidio a Vez? Sì, ma anche non si è ben capito. Comunque, ciao a tutti e alle prossime puntate con Tycoons & Dragons e il GDR. Ciao. Ciao. Ciao.